Cantico dei Cantici. Il titolo di questo libro significa il canto dei cantici, cioè il canto per eccellenza, il canto migliore, il canto più bello. Espressioni del genere non sono rare nella Bibbia. Infatti, altre espressioni che vogliono esprimere il superlativo sono i cieli dei cieli o vanità delle vanità. Il poema è attribuito a Salomone. A renderne difficile per noi la lettura è il contenuto erotico delle sue liriche, prive di elemento religioso. Alcuni credenti nel leggerlo rimangono scandalizzati e si vergognano a parlarne, mentre eventualmente non hanno remore nel guardare film erotici, riviste pornografiche o nel parlare di cose sciocche o volgari. Non sono in pochi a aver confessato con coraggio questa loro debolezza. Come cristiani ben pensanti spesso siamo pronti a rivolgerci con disgusto contro tutto ciò che è sessuale. Ma disprezzare la sessualità non è meglio che magnificarla. Il compito di ogni uomo, o forse uno dei suoi grandi compiti, è quello di umanizzare la propria sessualità, di integrarla nella sua personalità, di adattarsi e di adattarla a sé. Ciò impone tre condizioni. Accettare il proprio ruolo di donna o di uomo, accettare il proprio corpo, accettare il piacere fisico. Accettare non significa rendere assoluta o divinizzare la sessualità. Il rifiuto a accettare la realtà sessuale equivale in fin dei conti al rifiuto di Dio stesso, che è in tal modo rinnegato o criticato di quel Dio che non si è vergognato di creare l'essere umano principalmente sessuato. La differenza sessuale non è un incidente sfortunato che una sana spiritualità consentirebbe di cancellare, ma è un'invenzione del Dio creatore, il quale ha definito buono tutto ciò che ha creato. E l'uomo che ha reso cattivo o impuro ciò che all'inizio non era tale. La Bibbia, come del resto gli uomini, parla molto di sesso e di peccati sessuali, ma la differenza è che mentre gli uomini ne parlano esaltandolo o idealizzandolo, Dio ne parla affrontandolo nel modo giusto e condannando ciò che è sbagliato. Basti pensare al rito della circoncisione e tutta la teologia da essa derivante. Il più delle volte è la concupiscenza a impedirci di parlare serenamente delle cose che appartengono alla sessualità e dei suoi desideri. Ma quando la persona dello Spirito Santo purifica la nostra mente, allora siamo in grado di parlare convenientemente del sesso e di ciò che è attinente ad esso. Come è stato detto, dobbiamo renderci conto che l'amore umano e l'amore divino non sono due oceani separati, ma piuttosto un solo corso d'acqua con molti affluenti. Che l'argomento della sessualità possa imbarazzare, posso anche capirlo, ma quando confronto le varie traduzioni della Bibbia rimango a dir poco sorpreso nel notare come anche i traduttori si vergognino di chiamare le cose con il loro nome, al punto da cambiare il senso letterale di ciò che è scritto. Prendiamo tre esempi. 1. In Deuteronomio 28:57, nella Bibbia Nuova Riveduta, noi leggiamo la seguente espressione: per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno. Se noi prendiamo letteralmente il termine seno, rimaniamo confusi, sapendo che esso produce latte. La Bibbia di Salvatore Garofalo traduce la placenta che esce in mezzo ai suoi piedi. Espressione, questa, ancora inesatta. La Bibbia di Gerusalemme fa un passo avanti traducendo: si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi. Espressione ancora incompleta per la comprensione del testo. Mentre la Bibbia del Diodati, la Bibbia Concordata e la Nardoni traducono il versetto: a causa della placenta che le uscirà di fra le gambe. Solo la Bibbia Oscar Mondadori traduce il piccino che è uscito di mezzo alle sue gambe. È molto più realista. 2. In Ezechiele 16:25, leggiamo nelle Bibbie Rivedute: ti sei offerta ad ogni passante, dando l'idea di una donna disponibile. La Bibbia di Salvatore Garofalo traduce: moltiplicando le tue prostituzioni così da irritarmi. Il senso è ancora incerto. La Bibbia di Gerusalemme traduce: offrendo il tuo corpo ad ogni passante. L'espressione è più realista, ma la Bibbia del Diodati, la Bibbia Concordata e la Nardoni sono ancora più precise, rendendo allargando le gambe per darti ad ogni passante, mentre la Bibbia Oscar Mondadori traduce aprendo le tue cosce al primo che passava. C. È forse qualcosa di vergognoso nella posizione amorosa di una donna che accoglie colui che ama? Ma poiché non è sempre per amore che si fa sesso, con espressioni realiste, Dio vuole comunicare la massima infedeltà del popolo. 3. In Ezechiele 16.26 leggiamo nella Bibbia Riveduta e Concordata e Colin: ti sei prostituita agli egiziani, tuoi vicini, dalle membra vigorose, mentre la Diodati traduce: ti sei prostituita agli egiziani, tuoi corpulenti vicini, e la Bibbia Nardoni rende: ti sei prostituita agli egiziani, tuoi corpulenti vicini ben membruti. La Bibbia di Salvatore Garofalo traduce: vuotituisse. Ti sei prostituita agli egiziani, tuoi vicini, dal grosso organo. Mentre la Bibbia Oscar Mondadori, tradotta da biblisti prettamente tecnici, rende: itrala. Ti prostituisti agli egiziani, tuoi vicini, dal grosso pene. Per farsi capire, Dio parlava tramite i profeti il linguaggio del popolo, spoglio di espressioni poche chiare o ambigue. Egli non filtrava le parole nel colino della vergogna, perché è lui a aver creato la sessualità. Non credo che traduzioni così svariate e a volte contraddittorie siano di aiuto a chi desidera comprendere la parola di Dio, come non credo che moralizzare un testo sia giusto. Non vorrei che qualcuno pensasse che io sia pignolo o voglia trovare del sesso nella Bibbia anche quando non ci è. Ma una traduzione censurata non aiuta il lettore a comprendere il pensiero di Dio. Se la parola seno, come abbiamo notato in Deuteronomio 28:57, non si riferisce alle mammelle, ogni volta che si legge la parola seno nel Cantico dei Cantici, si è costretti a pensare ad altro. Così i traduttori avrebbero dovuto scrivere parole e espressioni nel modo corrispondente all'italiano, sia per non rendere malizioso il lettore, il quale è costretto di volta in volta a chiedersi a cosa si riferisca, sia per la giusta comprensione del pensiero di Dio. Se Dio, tre volte santo, non si è vergognato di usare espressioni e parole riferite al sesso, il cristiano, che deve essere perfetto come lo è suo padre, non deve essere da meno. Proprio per questo sono d'accordo con chi ha dichiarato che chiunque rifiuta di battezzare la sessualità ha la sua parte di responsabilità se essa rimane eternamente pagana e gli uomini con essa, poiché è la più forte. Per cui il silenzio imbarazzato quando la conversazione verte intorno al sesso non è in nessun modo testimonianza di pudore, ma al contrario di vergogna, perché vede la sessualità come una macchia. Gli adulti che si vergognano dell'erotismo e evitano di parlarne con i giovani che ne ignorano l'uso corretto, vedranno degli sposi cristiani trasudare noia da tutti i pori, i figli dei quali saranno dei felici pagani. Il compito del cristiano non è quello di proteggere, di coprire, di preservare il sesso, ma quello di formare, di istruire e di insegnare anche in questo, come in altri campi della vita. Ecco alcune valutazioni in merito al libro del Cantici dei Cantici. Un rabbino del secolo scorso disse: tutti i libri sono sacri, sono santi, ma il Cantico dei Cantici è sacrosanto. I rabbini usano affermare: i proverbi sono la corte esterna del Tempio di Salomone, l'Ecclesiaste il luogo santo. Il Cantico dei Cantici, il luogo santissimo. Yang disse: finché ci sarà impurità nel mondo, abbiamo disperatamente bisogno del Cantico dei Cantici. Origene, uno dei padri della Chiesa, affermò: beato colui che penetra nel santo, più beato colui che penetra nel santo dei santi. Così beato colui che comprende e canta il cantico della scrittura, ma più beato colui che canta il canto dei cantici. Il libro Cantico dei Cantici appartiene agli agiografi ed è uno dei 5 libri letti nelle sinagoghe in occasione delle grandi feste. Il libro di Ruth era letto alle Pentecoste, durante la festa della mietitura. Il libro delle Lamentazioni era letto nell'anniversario della distruzione di Gerusalemme. il libro dell'Ecclesiaste era letto durante la festa delle capanne, il libro del Cantico dei Cantici era letto a Pasqua in primavera. Infatti, è un capolavoro di poesia, ed è difficile trovare un altro scritto sull'amore umano che lo eguagli, amore da non disprezzare, in quanto eco dell'amore divino. Su questo gli studiosi sono tutti d'accordo, ma quando si cerca di rendere pratico questo aspetto, le differenze sono evidenti. Alcuni studiosi e teologi di fama mondiale, come Carlo Barth, ritenevano sessuato il Dio Trino dei cristiani. Ovviamente nessuno pensa che se il Dio Trino ha caratteristiche sessuali, debba avere anche organi sessuali come noi esseri umani, così come nessuno pensa che l'occhio di una fotocellula debba appartenere per forza ad un corpo umano, o il braccio della gru faccia parte di una creatura. È possibile, anzi, è certo che vi sia una sessualità non rientrante nell'ordine del nostro mondo, della quale la nostra è solo il riflesso. Se non consideriamo questa prospettiva, la nostra sarà un'opinione ristretta, simile a quella di chi non accetta la presenza di Dio solo perché non lo vede con i propri occhi. Se l'Eterno Dio ha creato una creatura a sua immagine e somiglianza, è molto difficile pensare che tale conformità escluda unicamente le caratteristiche sessuali. Se vogliamo apprezzare l'amore umano, dobbiamo pensare all'amore divino. Tra il Padre, il Figlio e la persona dello Spirito Santo intercorre una relazione così intima da poter essere eguagliata solo da quella matrimoniale, la quale, a sua volta, è il riflesso dell'intima relazione fra Cristo e la Chiesa, sua sposa. Come il Dio Trino dei cristiani è un Dio creatore, così all'uomo e alla donna è dato il potere di procreare un'altra creatura, ma poiché questa capacità è alla portata di ogni giorno, nessuno vi pone mente. Il libro del Cantici dei Cantici, con i suoi aspetti erotici, dovrebbe avvicinarci a comprendere sempre meglio colui che ci ha creati, senza il pensiero che questa lettura possa essere sessualmente eccitante. Letto con il giusto spirito, il Cantico dei Cantici purifica la nostra coscienza sporca. Nonché, è dubbio che il Cantico dei Cantici sia un libro diverso dagli altri della Bibbia, il nome di Dio non vi si trova mai menzionato, nel Nuovo Testamento questo testo non è mai citato. Non vi si riscontra alcuna espressione di religione naturale né di pia devozione. Non è introdotto da una visione e non presenta nessun segno di rivelazione divina. Il Canto dei Cantici non è un libro di dottrina, ma di sentimenti e di emozioni, quelli amorosi. Il Canto è un libro sull'amore tra un uomo e una donna, e non tra due omosessuali. Esso celebra la bellezza e il miracolo dell'amore umano. Dio vuole che l'uomo e la donna godano di questo amore, il quale trova l'apice della propria espressione, tramite il corpo, ma nei limiti delle leggi da lui stabilite. È difficile trovare uno scritto sull'amore umano simile a questo, dove non si riscontra né il volgare né il pornografico. Con questo libro Dio vuole valorizzare anche la sessualità, purtroppo oggi tanto degradata. La chiave di lettura di questa opera non è facile. Un ostacolo non indifferente è dovuto al fatto che noi non siamo ebrei. Vi sono tre principali metodi di interpretazione: considerarlo un testo allegorico, o un poema lirico, oppure leggerne il senso letterale. A. L'interpretazione più comune che ne danno sia i cristiani sia gli ebrei è allegorica. I giudei vedevano in questo libro il rapporto tra Dio e il popolo di Israele. Is 54:1-7. Questo metodo interpretativo passò in seguito dal giudaismo al cristianesimo, il quale vede in esso il rapporto tra Cristo e la Chiesa. Questo metodo deriva certamente dal criterio adottato dai primi padri della Chiesa, tra cui Origene e Atanasio, i quali addirittura privavano il contenuto di ogni valore letterale. Vi sono persone imbarazzate nel leggerlo, mentre altre lo allegorizzano per non dover interpretare testi per loro scomodi. La difficoltà non sta tanto nel testo quanto nel pensiero morale scorretto di chi legge. B. Una seconda interpretazione è che il testo si basa su di una struttura in forma narrativa, nella quale si inseriscono i dialoghi espressi in forma lirica fra i due protagonisti principali, oppure che si tratti di un C. Una terza interpretazione è quella che ne considera il senso letterale. si dà il merito a questa interpretazione ad un tedesco, di nome Jacobi, che nel 1771 pubblicò un lavoro di piccola mole. Personalmente accetto tutte e tre queste interpretazioni, perché il Cantico dei Cantici va preso letteralmente, tenendo presente che si tratta di un componimento poetico dal quale si possono trarre anche delle applicazioni spirituali. Perciò, nel nostro studio, seguiremo questo metodo interpretativo, tramite il quale si intravede il racconto di due sposi innamorati e per forza separati, lasciando ad altri il compito di spiegare allegoricamente. Se il libro dei Cantici non viene considerato letteralmente, molte affermazioni contenute in esso non si possono comprendere. Prendiamone in esame tre. 1. Il mio amico è per me come un sacchetto di mirra che passa la notte sul mio seno. 1:13. Cosa aveva a che fare il sacchetto di mirra con l'amico? Le donne orientali polverizzavano le foglie secche di certe piante odorifere e le ponevano in seno dentro a dei sacchetti. Con questa espressione, la donna simboleggiava l'amore nutrito per l'amante. 2. L'amico mio ha passato la mano per la finestra, il mio amore si è agitato per lui. 5:4. Alcune traduzioni hanno «ha abbassato la mano per il buco della porta». Le porte, in Oriente, avevano una finestrella mediante la quale le donne potevano parlare con gli uomini senza essere osservate. Lo sposo mise la mano dentro alla finestrella per aprire la porta e la sposa era tutta agitata perché si sentiva cercata. 3. Mi sono alzata per aprire al mio amico e le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida sulla maniglia della serratura. 5:5. Le donne orientali si spargevano il corpo di mirra. Essendo un sogno, la sposa vedeva la situazione in modo alterato ma corrispondente sempre alla realtà. Un'altra immagine di quanto la sposa fosse felice dell'incontro con lo sposo. Se il Cantico dei Cantici non ha elementi religiosi, ha almeno il merito di farci conoscere la nazione giudaica nell'intimità delle sue gioie domestiche. Per il più giudeo, il lavorare, il cantare e il pregare avevano la stessa importanza davanti a Dio. Il lavorare non era più spirituale del pregare? E questo deve farci riflettere riguardo alle nostre attività, che chiamiamo spirituali. Il matrimonio, con tutte le sue responsabilità legali, sessuali e morali, è una cosa seria ed ha una valenza spirituale da non sottovalutare. Paolo parla spesso della famiglia e dei suoi doveri, fino ad arrivare ad affermare che chi non provvede a quelli di casa sua rinnega la fede che professa. 1:5-8 a causa di una mancanza di riconoscenza, 5:4 o di gratitudine. Un esempio meraviglioso di come sia vincolante il rapporto familiare lo riceviamo da Gesù, il quale, prima di morire, si interessò del futuro di sua madre, Gv 19:25-27. Provvedendole un tetto e un sostentamento. Una religione o una fede che non apprezza i legami familiari è senza alcun dubbio una setta da evitare, come è da evitare qualsiasi insegnamento che metta al primo posto non Dio ma la famiglia o la sessualità. Una prima lettura o una visione superficiale di questo libro sembra dirci ben poco, ma ad un attento esame si può anche scorgere una storia, per non dire un dramma, tra un uomo ed una donna. O meglio, il libro presenta la titanica fatica della realizzazione del vero amore tra un uomo e una donna. Belle a sua storia. Nella sua struttura, il libro si presenta come un insieme di poemetti, nell'intreccio dei quali si scorge un certo dramma d'amore. Lo sviluppo del poema non è lineare, perciò si intravede continuamente una ricerca incessante del vero amore, variamente ostacolata. I personaggi. Chi sono i personaggi? Possiamo notare in questo libro quattro personaggi principali: uno sposo, una sposa, Salomone e le figlie di Gerusalemme, cioè le amiche della sposa. Come si chiama la donna? Il suo nome è Sulamita, 7:1. Chi è questa Sulamita? È molto probabile che non si tratti del vero nome della donna. Nella Bibbia si trovano citate 2 Sulamite. 1. 2 Re 4 narra di una donna molto ricca che viene da Shunem, la quale fece costruire una camera per il profeta Eliseo. Il profeta la ricompensa rendendola feconda. Eliseo la chiama Sunamita. Come per noi definire una donna di Modena, modenese? 2. 1 Re 1.15 narra di una ragazza di nome Abishai, proveniente da Shelem o Shulam o Shunem. Abishai è riconosciuta come la più bella ragazza di Israele, l'impari bellezza della quale la rese proverbiale. Dire tu sei una Sulamita era sinonimo tu sei una bellezza, uno schianto. Così, nel nostro racconto, la Sulamita personifica tutto ciò che è di più bello e di più caro di una donna. Incarna la sposa ideale per un uomo. Se si tiene conto che lo scrittore è un uomo, possiamo a ragione vedervi la donna ideale dal punto di vista maschile. Niente di sbagliato, ma oltre a servire per gli uomini, questo libro dovrebbe essere utile anche all'universo femminile per comprendere come dovrebbe essere una sposa per lo sposo. Non è la prima volta che una donna venga esaltata per certe qualità, perché nel libro dei Proverbi viene fatto un elogio rimarchevole ad una donna virtuosa e forte, Proverbi 31.1031. Così, nel Cantico dei Cantici, è esalta soprattutto la donna come moglie ideale, e la ragione è abbastanza ovvia. Se una donna virtuosa è in grado di portare avanti una famiglia e mette in evidenza le virtù del marito, una sposa ideale è il vero aiuto che conviene all'uomo. Infatti non a caso un proverbio dice «La donna saggia edifica la sua casa, ma la stolta la demolisce con le proprie mani». Proverbi 14.1. Dove si trova questa Sulamita? 1. 4. Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti, nel palazzo del re. Egli, avendola vista ed essendosi invaghito di lei, l'aveva fatto portare, forse rapita, nei suoi appartamenti. Nel XXI secolo non possiamo comprendere queste usurpazioni in merito alle donne. Ma, dove vi è sempre stata una reggenza tirannica, i re approfittavano delle donne e le possedevano sessualmente, quando e come volevano. In certi paesi, chi governava con tirannia e concupiscenza pretendeva il diritto di godere della novella sposa prima dello sposo. Forse per questo molti promessi sposi consumavano il matrimonio prima del giorno stabilito. Un'illegalità morale del tutto comprensibile, perché se il marito si ribellava ci rimetteva la vita. In questo modo i ragazzi ottenevano la realizzazione del loro lecito sogno di unirsi a tutti gli effetti, evitando inoltre che la ragazza fosse vittima della violenza di una concupiscenza sfrenata. Come sta scritto, quando i fondamenti sono rovinati, cosa può fare il giusto? Che caratteristiche aveva questa Sulamita? 1. 5. Sono scura ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Cedar, come i padiglioni di Salomone. Era nera come le tende di Cedar. Le tende dei pastori erano di pelli di capra nere. I padiglioni erano un paragone di bellezza, come per noi, in merito alle automobili, può essere una Ferrari. Inoltre, la Sulamita si definisce bella. Molto probabilmente, la bellezza a cui si riferiva non era solo fisica, ma anche morale. Infatti, l'amore della Sulamita per il pastore era mal visto dai fratelli di lei, i quali, per punirla della propria scelta sentimentale, la costrinsero a vigilare nella vigna di loro proprietà. La pelle scura, quindi, testimonia della fedeltà della donna al suo uomo. Non dobbiamo disprezzare queste verità, perché anche se non siamo più abituati ad osservarla, la bellezza del viso riflette il valore della nostra personalità. Non sta forse scritto che un cuore gioioso rende il viso raggiante, ma per l'afflizione del cuore lo spirito è abbattuto? Proverbi 15.13.15. Per quanto si voglia nasconderlo, l'aspetto esteriore rivela i nostri stati d'animo e per questo un conquistatore d'anime deve essere anche un po' psicologo se vuole riuscire nel suo intento di portare anime a Cristo. Spesso si incontrano persone già preparate da Dio mediante prove e sofferenze per accettare il meraviglioso messaggio di Cristo, e se non si è in grado di cogliere il frutto maturo al momento opportuno, è molto probabile che si perda un'occasione. Solo chi guarda bene in faccia al prossimo, per scrutarne lo stato d'animo, è in grado di portare molto frutto per il regno di Dio. Chiediamo quindi a Cristo non solo di incontrare chi cerca Dio, ma anche di cogliere i frutti maturi per il suo regno. Perché era nera la Sulamita? 1. Non guardate se sono scura, è il sole che mi ha abbronzata. Era stata esposta al sole, perciò era nera. Evidentemente, la Sulamita era stata costretta, suo malgrado, a rimanere al sole. Non sempre nella vita si può fare ciò che si ritiene giusto. Non sempre tutto svolge in modo ritenuto normale. La storia della Sulamita rivela l'esistenza di storie sentimentali più burrascose di altre. Chissà quanti matrimoni in Israele si sono realizzati in piena conformità ai sogni romantici di una donna che, fin da bambina, era stata promessa a qualcuno, il quale al momento opportuno, tipo il principe azzurro nella nostra cultura, si è presentato a lei per prenderla e portarla con sé nella propria dimora o tenda. Per la Sulamita non è stato così. Anche Ruth, la Moabita, citata nella Bibbia, arrivò al secondo matrimonio in modo piuttosto insolito. Lei si è messa a dormire ai piedi del suo futuro marito. Ma Dio è presente anche nei matrimoni inconsueti. Se tu pensi che il tuo matrimonio non sia ideale o normale fin dall'inizio, sappi che Dio vedeva e sapeva ogni cosa e come ti ha guidato e protetto in tante situazioni a te ignote. Così, anche nel tuo matrimonio, ti ha voluto fare del bene. Bene, che ora non vedi. Perché il sole aveva bruciato la Sulamita? 1. Se i figli di mia madre si sono adirati contro di me, mi hanno fatta guardiana delle vigne, ma la mia propria vigna non l'ho custodita. I fratelli della Sulamita si erano arrabbiati, perciò l'avevano mandata a sorvegliare le vigne. Perché si erano arrabbiati? Cosa aveva fatto di insolito la Sulamita? E chi che non aveva guardata la sua vigna? Difficile capire se questo suo discorso è puramente allegorico o se si riferisce veramente di una vigna. Ma poiché tutto il libro si esprime in metafore, è molto probabile che non si riferisca ad una pianta, ma a qualcosa di molto personale. Cosa ci può essere di molto personale per il quale i suoi fratelli si sono arrabbiati? Si può pensare solo a un'allusione alla sfera affettiva, nella quale lei abbia espresso apertamente i suoi sentimenti amorosi verso un giovane sul quale loro non erano d'accordo. Non si può pensare certamente a rapporti sessuali, perché per tale pratica vi era la lapidazione. Del resto, tutto il libro non fa altro che ribadire la purezza dei sentimenti e del desiderio sessuale, ma confinati nel giusto contesto, cioè quello del matrimonio. Infatti, tutto il libro tende a insegnare che vi è un momento per tutto. Perciò, come dice il ritornello del libro, io vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non destate e non svegliate l'amore mio finché non lo desideri. 2, 7, 3, 5, 8, 4. Cioè, non suscitate in lei sentimenti non adatti al momento. Chi era questa Sulamita da sorvegliare le vigne? 7, 2. Come sono belli i tuoi piedi nei tuoi calzari, o figlia di principe? La Sulamita era dunque una figlia di un principe, un particolare, che la ritrae come una persona importante. Non era dunque una normale ragazza di Israele. Dobbiamo ammettere che quando si tratta di persone preziose a livello sentimentale, vi è un lama a doppio taglio. Si vorrebbe possedere subito, perché l'amore, per sua natura, desidera godere dell'oggetto che ama. Ma, nello stesso tempo, occorre aspettare che la persona sia anch'essa desiderosa di essere amata. È bello amare, ma molto più meraviglioso essere riamati. Una relazione, questa, che esiste nel Dio Trino dei cristiani, dove l'amore è parte stessa della natura trinitaria. Poiché nell'essere umano nel quale Dio ha infuso dei sentimenti d'amore tutto è corrotto in genere, difficilmente si riesce a contenere l'istintivo desiderio di possedere nell'immediato che si ama. Tuttavia l'uomo dimostra il vero amore proprio nella capacità di attendere. Molto significativo è anche che la Sulamita sia lodata per la bellezza dei piedi nei calzari da lei indossati, se si tiene conto che si tratta di una delle parti meno nobili del corpo. L'ammirazione rivolta alle sue estremità rivela quanto dovesse essere meravigliosa la Sulamita. Quale particolare aveva la Sulamita? 6. 9. La mia colomba, la perfetta mia, è unica. È l'unica di sua madre, la prescelta di colei che l'ha partorita. Era l'unica figlia di un principe. Tutto questo spiega perché la pelle della principessa fosse diventata nera. Avendo una carnagione chiara e delicata, come in genere erano le figlie dei principi, esposta al sole, questa si è abbronzata fin troppo. Perché i fratelli l'avevano fatta sorvegliare delle vigne? 2. 5. Fortificatemi con schiacciate d'uva passa, sostentatemi con mele, perché sono malata d'amore. L'innamoramento della giovane aveva suscitato le ire dei fratelli nei suoi confronti. Ecco quale vigna la Sulamita non ha guardato. 1. 6. I suoi sentimenti. Gli orientali hanno sempre dato valore ai sentimenti. Il libro dei Proverbi infatti avvisa: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Proverbi 4:23. Essendo persone molto pratiche senza idee romantiche né false filosofie, gli orientali sapevano che un forte impulso sentimentale può portare fuori strada anche il più saggio degli uomini. Ne avevano avuto un esempio da Salomone, l'uomo più saggio di questa terra, dopo Gesù ovviamente, il quale per la propria passione per le donne era diventato idolatra. 1 Re 11:1-8. L'innamoramento è certamente uno dei più bei sentimenti donati da Dio, ma il diavolo lo usa per far cadere nella trappola anche le più brave persone. Quindi, i fratelli della Sulamita avevano voluto impedire alla giovane di esprimere il suo affetto. Però, dobbiamo aggiungere, non c'è e niente di male nell'innamorarsi, ma di chi si era innamorata la Sulamita? 1. Sei, o tu che il mio cuore ama, dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge e dove lo fai riposare sul mezzogiorno. La Sulamita si era innamorata di un pastore e questo certamente disonorava la posizione sociale della famiglia. Lei era figlia di un principe e, secondo la cultura di allora, simile anche a quella di oggi. Una principessa deve sposare qualcuno di alto rango, bisogna dirlo. Inutile nascondersi dietro ad un palo. E la nostra cultura a dettare maggiormente il nostro comportamento, più che la nostra morale. Alcuni, in opposizione a questo comportamento, cadono dalla parte opposta e recitano: in amore tutto è lecito, o l'amore non ha età, ma dimenticano che gli estremi non appartengono all'essere umano. Troppo caldo o troppo freddo non vanno bene, come troppa abbondanza e troppa penuria sono la rovina di una nazione. Così è vero che quando ci si innamora non bisogna guardare le regole sociali, ma è anche vero che se una ragazza si innamora di un uomo sposato, e numerosi sono i casi in cui questo accade, o un ragazzo si innamora della propria professoressa, non si tratta più di regole sociali, ma di regole che hanno a che fare con i principi di Dio. Quando leggo nel profeta Isaia che come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te, Isaia 62:5, non vi scorgo solo una profezia, ma pure una regola sociale e morale. E vero che ci sono anche le eccezioni, ma occorre stare attenti di non vedere ogni innamoramento come una eccezione. I fratelli della Sulamita, ovviamente, non avevano considerato l'innamoramento della sorella una eccezione e, condizionati dalla cultura, l'avevano incaricata quale guardiana delle vigne. Come si comporta la Sulamita? 1. Se te, o tu che il mio cuore ama, dimmi dove conduce a pascolare il tuo gregge e dove lo fai riposare sul mezzogiorno. Infatti, perché sarei io come una donna sperduta presso le greggi dei tuoi compagni? Occorre fare una precisazione. Il poema Cantico dei Cantici, come si è detto, è interpretabile in vari modi. Del resto tutti leciti, e dunque vedervi la figura di una ragazza che si innamora di un giovane è senz'altro più che calzante in relazione alla Sulamita, e da quello che si evince in seguito, il suo linguaggio è appropriato ad una sposa innamorata del suo sposo, dal quale ora si trova lontana. E un principio che elaboreremo nel corso delle nostre riflessioni, anche perché in Oriente tra gli innamorati non era permessa nessuna intimità, nessuna libertà di espressione di affetto. Prima delle nozze non vi era nessun contatto, né fisico né visivo, dato che i due promessi sposi, in genere, non si vedevano fino al giorno del matrimonio. Considereremo dunque la donna di questo poema, soprattutto come la unica figlia di un principe, che si è sposata con un pastore e, in seguito, è stata portata via da Salomone. Diversamente, l'invito affettuoso da lei lanciato all'inizio del libro risulterebbe incomprensibile: mi baci dei baci della sua bocca. Un invito molto ardito, ma per nulla erotico. Al desiderio della sulamita rispondono le amiche della sposa. 1. 8. Se non lo sai, o la più bella delle donne, esci e segui le tracce delle pecore e fa pascolare i tuoi capretti presso le tende dei pastori. La sulamita, in preda all'innamoramento, sembra confusa, ma le altre donne non fanno altro che invitarla a comportarsi normalmente, cioè seguire le tracce delle pecore e pascolare le capre dove vi sono altri pastori. Un invito molto saggio. Questo consiglio acquista molto più valore in una cultura occidentale, nella quale i giovani godono della massima libertà nell'espressione affettiva. Ormai, l'abitudine copre tanti comportamenti sbagliati, ma se riusciamo a considerare le cose dall'esterno, non è affatto lecito né utile alla società vedere dei giovani che si baciano appassionatamente in pubblico. Cosa dire poi, se questo avviene in un locale di culto, come ho visto ripetutamente fino a quando non sono intervenuto, la riservatezza sembra non avere più un volto. Che due giovani non abbiano un comportamento normale rispetto agli altri, che si trovino spesso da soli e molte volte al buio, non favorisce un rapporto sano e puro. Ecco perché è giusto seguire le tracce degli altri, insieme agli altri. Interviene ora lo sposo. 1. 9. Amica mia, io ti assomiglio alla mia cavalla che si attacca ai carri del faraone. 1:10. Le tue guance sono belle in mezzo alle collane, il tuo collo è bello tra i filari di perle. 1:11. Noi ti faremo delle collane d'oro con dei punti d'argento. Lo sposo comincia a fare dei complimenti alla sposa, riconoscendone la bellezza naturale, tra gli ornamenti d'oro e di perle. Paragonare l'amata ad una giumenta, per noi occidentali è originale. Ma presso gli orientali era un alto elogio della bellezza femminile, soprattutto se questa cavalla era degna di un cocchio reale. Le attenzioni dello sposo ci ricordano che, nel matrimonio, anche se è trascorso molto tempo, si devono ancora rivolgere i complimenti alla sposa per il suo operato, in virtù del quale l'uomo è accudito, gode dei pasti a lui preparati ogni giorno e si vede rivolgere mille attenzioni. Questo principio è valido ovviamente anche durante il fidanzamento, nel corso del quale sembra non esserci tale bisogno di dirlo. È ovvio che, se in certi fidanzamenti trascinati a lungo mancano di essere corredati da approvazioni, è certo che anche il matrimonio ne sarà privo. Ma la cosa più tragica della mancanza di approvazioni per l'amata o l'amato sta nel fatto che questa assenza si vedrà anche verso il prossimo in generale. Ancora più infausto è che tutto questo deriva dalla mancanza di riconoscenza verso Dio. Dobbiamo insegnare ai nostri figli la riconoscenza, altrimenti avremo una generazione egoista e capace solo a vantare dei diritti. La sulamita esprime i suoi più profondi sentimenti. 1:12. Mentre il re è nel suo convito, il mio nardo esala il suo profumo. La sposa ricambia i complimenti. Mentre il re è al massimo della sua gioia, perché il convito è fatto per gioire, la sposa desidera continuamente il suo sposo. Il nardo, insieme alla mirra e il cipro, fa parte di quei profumi rari e preziosi che simboleggiano il piacere e il desiderio dell'incontro. Un desiderio da non sottovalutare, perché dimostra come la sulamita non si lasci sedurre dai piaceri, nei quali si abbandona il re, ma desideri ancora di più la presenza dello sposo. Il vero amore non è distratto da altri piaceri. È probabile che il tuo fidanzato non abbia tutte le qualità da te desiderate riguardo al tuo promesso sposo. Ed è ancora più probabile che il tuo partner, dopo tanti anni, non sia più attraente come prima. Ma il tuo nardo, cioè il tuo implacabile desiderio dell'incontro, non deve svilirsi. Desiderare di stare con chi ami è la prova che il tuo amore è ancora vivo e attraente. Come è stato detto, quando si desidera stare con qualcuno, prima o poi ti accorgi che gli vuoi bene. Ora la sulamita apprezza il suo compagno in questo modo. 1:13. Il mio amico è per me come un sacchetto di mirra, che passa la notte sul mio seno. Come abbiamo già esaminato, le donne orientali polverizzavano le foglie secche di certe piante odorifere e le ponevano dentro a dei sacchetti ponendole sul seno. Con questa espressione la sulamita definisce lo sposo qualcuno di prezioso e di piacevole, esprime quanto sia vicino il suo sposo anche durante il giorno. Il seno richiama all'intimità coniugale. Difficile, per una moglie, riuscire a tradire il marito con queste premesse. Se una sposa è continuamente attratta dal pensiero del marito, non avrà tempo per pensieri concupiscenti per quanto certi uomini le facciano la corte. 1:14. Il mio amico è per me come un grappolo di cipro delle vigne d'Engedi. Engedi era un'oasi fertile sulla riva ovest del Mar Morto. I grappoli che producevano le viti erano stupendi e famosi, per cui la sposa considera lo sposo molto importante, prezioso e delizioso. Anche questo sentimento dovrebbe abitare in un matrimonio, e non solo quando si è fidanzati. Far sentire al nostro coniuge quanto valga per noi è indispensabile, soprattutto con il passare dell'età. Ad una coppia che aveva brillantemente vissuto e superato i 65 anni di matrimonio fu chiesto qual era il loro successo e ambedue risposero: ci sono cose che ancora ci piacciono. Evidentemente avevano saputo apprezzare in tutti quegli anni le cose che li diversificavano, trovandole un motivo di arricchimento, non di attrito. Il tuo coniuge è importante, prezioso e soprattutto delizioso per te? Se non lo è, lo sei tu per lui. Non preoccuparti di sapere se hai sposato la persona giusta, ma fai il possibile per essere la persona giusta per il tuo coniuge. Di fronte a queste dichiarazioni di reciproco affetto, una giusta reazione non può mancare. 1:15. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono come quelli dei colombi. 1:16. Come sei bello, amico mio, come sei amabile. Anche il nostro letto è verdeggiante. 1:17. Le travi delle nostre case sono di cedro, i nostri soffitti sono di cipresso. I coniugi gareggiano in complimenti. I luoghi d'incontro sono vari, dal prato alla casa. Il prato esprime la naturalezza dei desideri, mentre la casa rende l'idea di qualcosa che si è costruito. Non importa il luogo, l'importante è stare assieme. Desiderare di stare assieme è l'anima del matrimonio. Quando un coniuge afferma che se tornasse indietro non si sposerebbe più, rinnega il dono del matrimonio. Quando un marito torna a casa di malavoglia, la moglie dovrebbe interrogarsi. Quando una moglie brontola spesso, il marito dovrebbe riflettere. Il segreto di un buon matrimonio è quello di non desiderare di stare da soli, perché il tuo coniuge è parte della tua vita. In effetti, un matrimonio realizzato è quando i coniugi desiderano stare assieme, quanto desideri stare con chi ami. Qualcuno ha detto: oggi le coppie moderne troppe volte parlano ma non condividono i loro pensieri. Sentono quello che l'altro dice ma non si ascoltano. Si toccano ma non si amano. Guardano ma non vedono. Pregano ma da soli. Parlano di persone, di fatti ma non di Dio, del loro amore e dei loro sentimenti. Conoscono gli amici più del loro coniuge. Amano Dio ma in modo personale e individuale. Stanno uno a fianco all'altro ma non camminano assieme. È evidente che mettersi insieme un esito positivo che molti sposi non cercano e non ambiscono, perché si subiscono o si sono abituati a un non matrimonio. Quando un coniuge non desidera più voler cambiare in meglio è già separato, se non moralmente morto. Come disse qualcuno, la vera tragedia della vita non è la morte esteriore, ma quello che muore dentro di noi. Solo attingendo dalla fonte della vita, che è Cristo, si possono rinnovare le forze, come è scritto: Dio dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Con Dio si può anche cadere, ma Egli ci rialza anche, se sappiamo attendere e se lo vogliamo. I due innamorati parlano del loro rapporto. 2:1. Io sono la rosa di Saron, il giglio delle valli. 2:2. Quale un giglio tra le spine, tale è l'amica mia tra le fanciulle. La Sulamita si paragona ad una rosa, non ad una qualsiasi, ma a una rosa della pianura di Saron. Una spianata di 80 chilometri di lunghezza e 15 di larghezza del litorale tra la città di Ioppe e il monte Carmelo, una zona molto fertile ove pascola. Il paragone con una rosa di Saron indicava la preziosità della fanciulla e giustamente riconosciuta dal suo innamorato, il quale rincara. Non solo è un giglio, ma l'unico e inaccessibile per chi volesse raccoglierlo. Le altre donne per lo sposo sono tante spine, non fiori da desiderare e cogliere. Anche se fosse assalito dal desiderio di apprezzarsi ad esse, sentirebbe del male. Occorre essere pratici. Non è vero che peccare sia così spiacevole, perché peccheremmo tutti molto di meno se così non fosse. Così, commettere adulterio, rubare, o i peccati di gola, sono azioni che producono un certo piacere. Se tuttavia queste azioni sono per noi tante spine, è solo dovuto alla nostra coscienza che ci riprende. Spesso però non è sufficiente, e ne ha dato dimostrazione il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, quando commise adulterio con Batsheba, solo a 9 mesi di distanza dal misfatto, quando il profeta Natan lo riprese, il sovrano comprese il proprio peccato. Se vogliamo avere sempre una coscienza sensibile, dobbiamo nutrirci abbondantemente, ogni giorno, della parola di Dio. Solo allora chi ha preso un impegno davanti a Dio e a una donna di esserle fedele per tutta la vita sarà capace di mantenere il patto. La Sulamita nei complimenti non è da meno. 2:3. Qual è un melo tra gli alberi del bosco? Tal è l'amico mio fra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra. Il suo frutto è dolce al mio palato. Anche la sposa riconosce l'unicità dell'amato tra gli altri uomini, riconoscendolo come un melo fiorito. Un melo fiorito lo si riconosce subito tra gli altri alberi di un bosco. Da notare che la Sulamita non paragona il suo innamorato ad altri alberi da frutta, come per dire che gli altri uomini sono belli ma tu sei più bello, ma i semplici innumerevoli alberi del bosco che non fanno frutto. E, tanto importante il suo innamorato, che la Sulamita desidera stare dove è lo sposo. Per un uomo, il matrimonio è riuscito quando la sposa desidera la sua ombra. In questa espressione vi sono due verità. Vi è l'ombra negativa della personalità, cioè quella parte che non rientra nelle nostre aspettative, e l'ombra piacevole, procurata dalla sua presenza. Se per un uomo un matrimonio è riuscito quando la sposa ne desidera la presenza, il matrimonio è più che riuscito quando la sposa accetta anche le parti negative, cioè le ombre dello sposo, e considera tutta la sua presenza una benedizione per lei, perché tutto serve per arricchire il loro rapporto. Purtroppo, nel mercato delle idee, in merito all'unione coniugale, non si vende questa ricetta. Bisogna imparare a gestire le differenze. Diversamente ne saremo vittime, perché la conoscenza dei lati oscuri del coniuge può rivelare ciò che abbiamo veramente nel cuore. Se si vuol colpire, si hanno i proiettili a portata di mano. Se si vuole aiutare, si sa da dove cominciare. La Sulamita ricorda con piacere il suo rapporto con l'amato. 2:4. Egli mi ha condotta nella casa del convito. L'insegna che stende su di me è amore. La sposa, quando è con lo sposo, si trova in un continuo convito, in un continuo banchetto. È, diremo noi, a nozze. Se l'insegna, cioè il vessillo o la bandiera, rappresentano una nazione, ciò che caratterizza il rapporto dello sposo con la sposa è l'amore. La sposa si sente amata in ogni gesto del suo sposo. Per questo aspetto vorrei ricordare ciò che ho già detto altrove. Ingrid Trobisch, la moglie di un consulente matrimoniale, scrisse queste parole significative. Quando? Il marito era già morto da 3 anni. Noi abbiamo avuto comunque un grosso problema. Nonostante tutti questi segni esterni che interni, io a volte ho trovato difficile credere che tu mi amavi. Veramente. L'uomo frainteso Pag. 79. Queste parole mettono innanzitutto in risalto che tutti i matrimoni hanno dei problemi. Con un uomo come Walter, una donna difficilmente poteva avere grossi problemi, ma lei testimonia che loro ne avevano uno grosso. Poi continua col dire io a volte trovavo difficile. Il problema, quindi, non era loro, ma era suo. E, forse, qui sta la chiave dei problemi matrimoniali. E, la donna, quella che soffre di più, perché è lei a trovare difficile credere che l'uomo la ami. Con questa frase, Ingrid rappresenta il mondo femminile, e donna e non capisce che l'uomo esprime il suo amore molto diversamente. La donna crede di dover essere amata nel modo che intende lei, ma, se così fosse, l'uomo non sarebbe più uomo. Un uomo pensa, agisce e funziona, in maniera diversa. La sua personalità, il suo fisico, la sua emotività, il suo modo di fare, di percepire, di comportarsi, di reagire, è diverso. Queste differenze possono diventare campi di battaglia o campi di addestramento. Tutto dipende dall'abilità di adattamento dei coniugi. Occorre fede in Dio, è vero, occorre fede nelle cose della vita, occorre fede in se stessi. Ma molto di più, occorre fede nel coniuge perché è la persona della quale si conoscono meglio i difetti. Spesso i difetti nascondono, abbagliano gli atti di amore, ma questo non è colpa di chi li ha, ma di chi trova difficile credere di essere nonostante tutto amato dal coniuge. È veramente ammirevole l'analisi onesta con la quale Ingrid prosegue. Con il passare degli anni ho imparato anche che è difficile per ogni uomo su questa terra. Solo uno può farlo. Si tratta, non vi è dubbio, della più grande inquietudine di una donna, quella di non essere amata. Se io potessi dire solo una cosa ai miei figli circa l'uomo che ama, dire così: egli è colui che riesce a dare a sua moglie la certezza di essere amata. Egli non dimentica di dirle ogni giorno, in qualche modo, che lei è il numero uno nella sua vita. E lei deve ascoltare e accettare ciò che lui dice, sia nelle parole sia nei fatti. L'uomo ha bisogno di sentirsi amato, ma per la donna è una necessità saperlo. Quando un uomo riesce a far comprendere a sua moglie che l'ama, ha raggiunto uno degli obiettivi più grandi del matrimonio. Se la sulamita era cosciente di essere amata, era certamente la donna più felice e innamorata. La sulamita continua le sue esternazioni d'affetto. 2. 5. Fortificatemi con schiacciate d'uva passa, sostentatemi con mele, perché sono malata d'amore. 2. 6. La sua sinistra sia sotto il mio capo, la sua destra mi abbracci. Quando una donna si sente comunque, e nonostante tutto, amata dal marito, quando l'amore conduce alla casa del convito, il risultato è inevitabile, è malata d'amore. Questa espressione non intende significare che è malata di sesso, come potremmo pensare, ma che si sente tanto amata da non sentirsi normale. Ed è vero. Questa in genere è l'esperienza della quale riferiscono tutti. Coloro che sperimentano la nuova nascita, coloro che vagavano nella vita senza obiettivi e senza speranza. E, da un momento all'altro, per la fede in Cristo, si trovano davanti una meta da raggiungere. Una certezza divina. Si sentono catapultati in una dimensione nuova, che li stravolge al punto da non sentirsi più come prima. E in effetti non sono più tali, perché talmente repentino è stato il cambiamento da far loro avvertire lo sbalzo prodotto dall'essere stati catapultati da un regno all'altro, dal regno di Satana a quello di Dio. Perciò l'esperienza di sentirsi amata o amato rivoluziona talmente l'esistenza da sentirsi poco normali. La Bibbia narra di un uomo, anch'egli malato d'amore, Ammon, uno dei figli di Davide, che per la passione provata nei confronti della sorella Tamar si era ammalato. Ma non era amore, si trattava solamente di una grande passione sessuale e niente più. Questa insana attrazione l'aveva talmente accecato da indurlo a studiare un ingegnoso piano per poter rimanere solo con lei e poterla così violentare. Come può una ragazza sapere se un giovane che le fa la corte è veramente sincero e non mosso solo da pura passione sessuale? Dal rispetto che prova nei suoi confronti. Se il giovane pretende da lei ciò che la ragazza non vuole, è solo pura passione. Il vero amore sa aspettare. Rispetta le esigenze dell'altro. Se l'uomo sa controllare la sua lecita e anche distorta sessualità, susciterà nella donna il desiderio di essere cercata, adempiendo così i giusti ruoli del maschio e della femmina. Lui chiede e lei risponde. Si può dire che l'amore dell'uomo sia un amore decisionale, mentre quello della donna è un amore di riflesso. Sentendosi amata, la sposa desidera che lo sposo l'abbracci, desidera il contatto fisico. Un contatto che la sulamita esprime così. La sua sinistra sia sotto il mio capo, la sua destra mi abbracci. Preso alla lettera, come tutto il resto, rende l'idea di un totale abbandono da parte sua e un totale possesso da parte dell'uomo. Del resto, ciò che dovrebbe caratterizzare un vero e totale rapporto tra una sposa e uno sposo non è tanto l'incontro, perché l'incontro si può avere anche con persone sbagliate, ma è il totale abbandono meno come dimostrazione di fiducia meno del proprio essere, spirito, anima e corpo. La sulamita voleva essere abbracciata perché il suo spirito era soddisfatto, perché la sua anima amava l'innamorato e il suo corpo. Di conseguenza, desiderava ciò che di lui la faceva sentire ricambiata. La reazione della sulamita ci porta a fare due riflessioni. Innanzitutto la reazione della sposa è simile a quella del cristiano, che ama Dio, perché è stato amato per primo. 1 Gi 4:19. In effetti tutte le creature umane nei confronti di Dio si comportano come femmine, cioè esprimono un amore di riflesso. E questo è il solo vero amore. Ogni altro sentimento si ricollega agli istinti naturali messi da Dio nel nostro cuore. Inoltre, ogni coppia di sposi, per rinsaldare la propria unione, di tanto in tanto, deve realizzare un contatto fisico che non sia prettamente un rapporto sessuale. Noi abbiamo bisogno di sentire il corpo del nostro coniuge, con un bacio o un abbraccio. Poveri sono quegli sposi che non realizzano questo. Le mele e le schiacciate di uva passa, nominate dalla sulamita, sono ottimi ricostituenti e, ancora oggi, dovremmo farne tesoro. Lo sposo riversa una supplica. 2. Sette figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate. Questa frase è ripetuta anche altre volte. Lo sposo giura per le gazzelle, per le cerve. Tenendo presente che un giudeo doveva solo giurare nel nome di Dio, qualcuno ha ravvisato nei nomi in ebraico gazzelle e cerve, il crittogramma del nome del Dio di Israele. Era un modo di rivolgersi a Dio, senza nominarne il nome. Lo sposo chiede, con molta delicatezza, di non fare pressione sull'amore della sposa. Egli desidera essere amato dalla sposa, quando lei lo desidera. Questo è il vero amore, perché all'istinto maschile è legato un egoismo che può essere superato solo mediante una viva preoccupazione per la sensibilità della donna. Solo quando l'uomo lascia la donna libera di amare quando lo desideri, l'atteggiamento dell'uomo può avvicinarsi al vero amore. Anni fa, lessi su Selezione la testimonianza di una donna. Parlando con la madre, si rese conto che i suoi genitori avevano adottato una moda di recente uscita in America: dormire in letti separati. Un po' curiosa, chiese come riuscivano a risolvere gli approcci sessuali, come facevano a mettersi d'accordo. Semplice, rispose la madre, ci sono delle sere che tuo padre mi tira il cappello ed io glielo tiro indietro, altre volte invece glielo riporto. Sono profondamente convinto che se l'uomo gestisse la sessualità in questo modo, il 90% dei problemi matrimoniali sarebbero risolti. Però attenzione, che non si faccia come quella coppia che aveva problemi sessuali, alla quale accennai di questo metodo. Un mese dopo, vidi la moglie e le chiesi come andava. «Abbiamo fatto pochi progressi», mi disse. «Vuoi dire che il metodo non funziona?» chiesi un po' scoraggiato. «Non è il metodo», rispose. «Solo che la sera stessa, mio marito mi tirò l'asciugamano e io glielo tirai indietro. Lui me lo ha tirato di nuovo ed io glielo ho mandato indietro. Abbiamo fatto così per mezz'ora». Gli sposi continuano a farsi i complimenti. 2. 8. Ecco la voce del mio amico! Eccolo che viene, saltando per i monti, balzando per i colli. 2. 9. L'amico mio è simile a una gazzella, o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. 2. 10. Il mio amico parla e mi dice, alzati amica mia, mia bella, e vieni. 2. 11. Poiché, ecco, l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito, se ne è andato. 2. 12. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. 2. 13. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. 2. 14. Mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso. Fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave, e il tuo viso è bello. Se leggiamo tutto il libro Cantico dei Cantici, non è per passatempo, ma per cercare ogni verità, che sia un benessere per noi. Lo sposo invita la sposa a partecipare al risveglio della natura. L'inverno è passato, i fiori spuntano, gli uccelli cantano, il fico ha messo i suoi primi frutti, la vite esala il profumo. Lo sposo non desidera fare violenza sulla sposa, però la invita ad essere in armonia con la natura. Sì, perché se fossimo in grado di ragionare senza la corruzione della concupiscenza, capiremmo che gli istinti sessuali altro non sono, se non impulsi naturali in armonia con tutto il creato. Non solo. Anche il rapporto di coppia è una relazione naturale di due persone imperfette. Solo che noi lo abbiamo idealizzato, cioè pretendiamo una relazione perfetta. Un'armonia ideale, gioia all'infinito. Una trama hollywoodiana, per dirla in breve. Perché un matrimonio possa essere veramente umano, cioè alla nostra portata, dobbiamo accettare le delusioni, ammettere i nostri atteggiamenti sbagliati e riconoscere il nostro egoismo. Il matrimonio ci chiama a dare il meglio di noi stessi, a raggiungere i nostri migliori e più alti ideali, ma facendolo ci chiede quasi l'impossibile. Forse ci chiede proprio l'impossibile, affinché ci rendiamo veramente conto che solo con i principi di colui che lo ha istituito si può vivere un perfetto matrimonio imperfetto. Il drammatico dualismo del matrimonio consiste nel fatto che si possono nutrire i più bei sentimenti affettivi, ma contemporaneamente provare anche impulsi naturali meno quasi incontrollabili, meno di rancore e di odio. Essere in armonia con la natura significa accettarne le mutabilità. C è il periodo dell'inverno e il periodo dei fiori che spuntano. C è il tempo delle piogge, come il tempo del canto della tortora. Un appello accorato proprio indicato. 2 e un quarto, prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. Le volpi per gli orientali sono simbolo di crudeltà, non di furbizia come noi pensiamo, per cui il discorso è, togliete tutto quello che guasta il rapporto d'amore. In effetti l'amore coniugale deve essere protetto, e una coppia saggia cercherà di togliere ciò che impedisce una buona riuscita del matrimonio. Un vero matrimonio si costruisce, non nasce spontaneamente da solo. Ciò implica impegno, responsabilità, abnegazione, perdono, tenerezza e dolcezza. Tradotte queste parole in pratica, significa avere un impegno totale ad amare il nostro coniuge così com'è, con i suoi lati positivi e negativi, per desiderare che diventi ciò che non è. Come disse Johann Wolfgang von Goethe, se trattate un uomo per quello che è, rimarrà com'è, ma se lo trattate per come dovrebbe e potrebbe essere, diventerà un uomo migliore. Fare questo significa niente meno che compiere una terribile violenza ai propri sentimenti e inclinazioni naturali, perché il primo impulso spontaneo sarebbe trattarlo per quello che fa e che si merita, ma dire alla propria moglie o marito ti amo, ti voglio bene, oppure grazie per quello che hai fatto quando tutto dentro di te è in tempesta e grida alla ritorsione, non è cosa da poco. È facile amare quelli che sono amabili, perché abbiamo un concetto dell'amore molto umano e istintivo, ma l'amore, secondo il disegno divino, è tale proprio. Quando si tratta di agire positivamente nei confronti di chi sia difficile, in tutti i sensi. E questo, diciamocelo chiaramente, rende gravoso ubbidire alla chiamata di Gesù di amare il prossimo. E il prossimo, più prossimo, chi è se non il proprio coniuge? Come disse qualcuno, in un certo senso, è facile amare Dio, perché Dio non puzza, non ha l'alito cattivo, non ricambia la gentilezza con il male e non fa commenti aspri. In questo senso è facile amare Dio. Gesù ci sfida quando condiziona il nostro amore per Dio, al nostro amore per il prossimo, soprattutto con il coniuge. Le volpicine che guastano le vigne in fiore, non a caso sono chiamate volpicine e non volpi, perché si riferisce a tutto ciò che apparentemente può sembrare piccolo, un'inezia, ma che impedisce comunque una manifestazione naturale del proprio affetto, come il semplice bacio o un abbraccio amorevole. Come può una coppia rimanere indifferente di fronte a certi piccoli cambiamenti? Il rimprovero di Dio rivolto al suo popolo mediante il profeta Osea, dicendo: «Ha dei capelli grigi, sparsi qua e là, ma non se ne accorge». Osea 7.9. Non vale forse anche per una coppia di sposi? Ogni coniuge deve rendersi conto di non essere tutto ciò che esiste, ma deve dare spazio ad un altro, interessarsi dell'altro, tanto quanto è interessato a se stesso. Solo così prenderà le piccole volpi, che guastano le vigne in fiore, cioè ciò che già inizia a profumare. Ecco una vera espressione d'amore. 2:16. Il mio amico è mio, e io sono sua, di lui, che pastura il gregge fra i gigli. Questa affermazione di possesso reciproco appare più volte nel poema. Contrariamente all'evoluzione e l'elaborazione dell'etica cristiana svoltasi nel corso dei secoli nell'ambito della cultura ebraica, cultura sorta dalle leggi di Dio, il desiderio di possedere il proprio coniuge è ritenuto parte lecita e normale dell'essere umano. Non è comprensibile come si possa voler bene al proprio coniuge senza desiderare di possederlo. Perfino Dio, nell'amare le sua creatura, desidera possederla, e lo dimostra in particolar modo in un solo nome proprio attribuitogli, il geloso. Non si è gelosi di qualcosa che tutti possono avere, ma di ciò che ci appartiene. Sì, infatti riguardo a coloro che sono diventati figli di Dio, mediante un unico atto di fede nell'opera di Cristo, l'Apostolo Paolo specifica: «Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi». 1 Corinzi 6:19. Il cristiano, che ha compreso che Gesù è morto per tutti, ha pure capito che quella morte è stata gustata affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. 2 Corinzi 5:15. Inoltre, sempre dal lato umano, una donna, per una sua componente psicologica femminile, è felice di sapere di appartenere e di essere desiderata dal suo uomo. Uno psicologo, nell'individuare alcune fondamentali necessità di una donna, sia fisiche sia psicologiche, ha dichiarato che una di queste è quella di essere desiderata. Infatti, quando una moglie vuole vendicarsi di suo marito, si rifiuta sia nell'ambito affettivo sia fisicamente. Ovviamente troverà centinaia di ragioni per comportarsi così, giustificherà il suo comportamento in modo razionale, ma dimentica, volontariamente, che Dio è a conoscenza di ogni segreta motivazione e che, prima o poi, lei raccoglierà ciò che ha seminato. Non che l'uomo sia esente da questi macchinosi comportamenti. Perciò, quando il vero amore viene meno, rifiuta di desiderare sua moglie. Questa mancanza di desiderio di possesso da parte dei coniugi fa parte di quelle piccole volpi che guastano le vigne in fiore. Quindi, attenti alle astinenze prolungate più del normale per ciò che concerne l'aspetto sessuale, perché portano al tradimento, che se non è nella pratica è sicuramente mentale. Sposi e spose hanno confessato di dover fare sesso con il proprio coniuge perché indotti dal senso del dovere, seppure fossero interiormente animati dal desiderio di farlo con un altro. Perciò la brama di possesso della sulamita deve essere una costante nel matrimonio, una costante istintiva, che non essendo tale va ricercata. Il che vuol dire che se non vi è una vera e propria aspirazione sessuale, si cercherà ugualmente l'incontro, l'unione, con l'effetto collaterale di cementare e produrre tenerezza e affetto. Non per caso si dice che il matrimonio è l'esame più impegnativo della vita. La sulamita esprime un altro desiderio femminile. 2:17. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. La brezza del giorno è, in Palestina, il vento della sera, nell'ora in cui le ombre diallungano. La sposa desidera che lo sposo torni prima di sera, alla velocità di un cerbiatto. Un'altra delle fondamentali necessità di una donna è la protezione. Per una donna è importante la presenza maschile e l'uomo dovrebbe tenerne conto. Una lunga assenza dalla famiglia, sia per lavoro sia per altre ragioni, dovrebbe essere decisa da entrambi i coniugi. Anche questo aspetto ha un valore immenso in un matrimonio, un aspetto molte volte ignorato da entrambi i coniugi, ma non da Dio. Infatti, leggiamo nel libro sapienziale dei Proverbi: come l'uccello che va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa. Proverbi 27:8. Un uccello lontano dal nido è sempre in pericolo, esposto ai predatori e non svolge le sue funzioni. Ho presente una coppia di sposi, dove lui è figlio di credenti, ma incredulo, come sua moglie. Il suo lavoro di rappresentante lo portava spesse volte a rimanere fuori casa, a dormire in alberghi, a frequentare gente di alta classe. Venne il giorno che la moglie trovò nella giacca qualcosa che le disse di essere stata tradita. Nacque una terribile contesa. Allora la mamma di lui, con molto tatto e amore, parlò con la nuora, dicendole: «È vero che mio figlio ti è stato infedele, ma tu che cosa hai fatto per impedirgli questo? Gli sei stata vicina, lo hai cercato sessualmente, cercavi la sua compagnia dopo il lavoro. O eri contenta che lui stesse lontano da casa e ti lasciasse in pace nel campo sessuale? Ebbene, contrariamente a quanto avrebbero deciso molte donne, anche cristiane, la sposa ascoltò queste parole, si esaminò, non chiese il divorzio e, da quel giorno, si interessò dei movimenti del marito, gli stette più vicino e soprattutto si impegnò, proprio come consigliavano molti anni fa le donne anziane del mio paese alle spose nel giorno del matrimonio: lascia sempre il fucile scarico. Un consiglio che potrebbe anche fare scandalizzare qualche moralista o ben pensante, ma che aveva una validità più di tanti consigli moralistici. Inutile nasconderlo, i credenti, i cristiani, prima di essere tali, sono degli esseri umani, cioè sono come tutti gli altri. Perciò, come disse Pascal, chi vuol far l'angelo fa la bestia. Se il matrimonio è fatto soprattutto per stare assieme, in caso di eventuale impossibilità occorre la decisione unanime di tutti e due i coniugi. Diversamente, è indispensabile trovare una soluzione comune. Come sta scritto, non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo. Per privazione si intende, sia visiva sia fisica. La sulamita racconta un suo sogno. 3:1. Sul mio letto, durante la notte, ho cercato il mio amore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. 3:2. Ora mi alzerò e andrò attorno per la città, per le strade e per le piazze. Cercherò il mio amore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. 3:3. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata e ho chiesto loro: avete visto il mio amore? 3:4. Di poco le avevo passate quando trovai il mio amore. Io l'ho preso e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. 3:5. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate. Molto probabilmente questo è un sogno tipico degli innamorati. e, come molti sogni, è irreale. Soprattutto per una donna orientale, perché nessuna di esse vagherebbe per le strade di notte. Ma l'implacabile desiderio della sposa è talmente forte da indurla a sognare di essere uscita di casa la sera e aver trovato l'amato. Le guardie possono rappresentare la legge, per cui la sposa cercherebbe lo sposo entro giusti limiti. Cercare il proprio amore, il proprio sposo. Sembra che nella mentalità femminile questo sia l'ultimo gesto da compiere perché, per qualche ragione ignota, appare un atto di debolezza, se non un atteggiamento sbagliato. E l'uomo che deve cercare la donna e non il contrario, vero? Molto probabilmente è così quando si è giovani, perché l'uomo ha dover corteggiare la ragazza, ma quando si è sposati, una iniziativa nel campo sessuale da parte della donna può anche restaurare un rapporto inclinato, visto che per l'uomo la sessualità è una componente determinante dell'unione. Forse la ragione di questa reticenza a prendere l'iniziativa risiede nel fatto che la sposa si sente come una di quelle che vanno a caccia di uomini, ma non è assolutamente così nel matrimonio. Forse per la sposa cercare il proprio sposo può essere anche un atto di umiliazione, ma questo sentimento svanisce qualora il desiderio di stare con lui sia maggiore. Inoltre, non poche volte accade che l'uomo eviti l'incontro con la moglie per un atto di orgoglio. Ma una iniziativa da parte della donna può aiutare l'orgoglio maschile a sciogliersi. Se molte spose sapessero di questo problema maschile, quante volte si farebbero avanti pur di guadagnare un rapporto di gioia e soddisfacente? Ecco perché la sulamita è uscita di casa e ha cercato lo sposo, che chiama il suo amore. Forse perché lui non la cercava. Forse la cercava, ma una sua iniziativa serviva per verificare la bramosia dello sposo nei suoi confronti. Quando un uomo non cerca la sua donna, è il momento per la donna di alzare le antenne. Parlando di questo argomento con una sposa, la sentì replicare che lei era sempre disponibile, quindi si sentiva a posto. Ma io affermai di rimando che non era sufficiente. Da parte sua occorreva qualche volta anche una lieve iniziativa. Perché è stato detto con verità che per un uomo il sesso è la dichiarazione d'amore e la conferma del proprio valore, più valida in assoluto. Altri personaggi del poema pongono delle domande. 3. Sein, chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra e d'incenso ed ogni aroma dei mercanti? 3. 7. Ecco la lettiga di Salomone, intorno a cui stanno 60 prodi fra i più valorosi di Israele. 3. 8. Tutti maneggiano la spada, sono esperti nelle armi, ciascuno ha la sua spada al fianco per gli spaventi notturni. 3. 9. Il re Salomone si è fatto una lettiga di legno del Libano. 3 e 10. Ne ha fatto le colonne d'argento, la spalliera d'oro, il sedile di porpora, in mezzo a un ricamo lavoro d'amore delle figlie di Gerusalemme. 3 e 11. Uscite, figlie di Sion, ammirate il re Salomone con la corona di cui l'ha incoronato sua madre il giorno delle sue nozze, il giorno della gioia del suo cuore. In questa descrizione possiamo notare le usanze del matrimonio regale presenziate. Come per noi è il matrimonio ideale. La sposa tutta in bianco, una bella macchina, fiori e riso a volontà. Così, in Oriente, ogni ragazza che si sposava sognava di essere come la sposa di Salomone, preparata per il matrimonio. Preparata per il matrimonio! Molto probabilmente, le ragazze ebree erano molto più preparate al matrimonio delle ragazze di oggi, e con questo non si vuole intendere che fossero più informate in merito al sesso da libri, più o meno erotici, ma sapevano che nel matrimonio la componente sessuale era un elemento basilare, come del resto l'avere figli. Le ragazze, conducendo una vita pastorale, trascorrevano fin da piccolissime una vita dedita al servizio, vedevano del continuo l'accoppiamento degli animali, perciò consideravano l'esercizio sessuale come una normale funzione. Una barzelletta delle valli valdesi e di secoli fa lo mette in evidenza. Una bambina conduce un toro sulle colline piemontesi, dove incontra il pastore della chiesa. Molto gentilmente, egli la saluta e le chiede dove porti, bella bambina, il toro. La bambina risponde subito: lo porto alla monta. Il pastore rimane un poco confuso, arrossisce e, imbarazzato, le dice: ma questa incombenza non potrebbe svolgerla tuo padre? No, risponde subito la bambina molto tranquilla. Ci vuole proprio il toro. Una giovane preparata al matrimonio sa che la vita matrimoniale è un servizio ed è pronta psicologicamente alle difficoltà alle quali si va incontro. Sa che deve lottare per avere un buon rapporto con il marito. Le giovani di oggi hanno questa preparazione al matrimonio? Sanno che servire un uomo meno perché è di questo che si tratta meno? Non è facile, soprattutto, se lui è anche difficile di carattere. E, vero che la responsabilità di amare la moglie spetta all'uomo, ma se l'uomo non vi adempie, come si comporta la giovane moglie? Lo abbandona? Divorzia? Una soluzione questa che dimostra la nostra incapacità ad attenerci al comando di Gesù. Una ragazza che nel paniere del matrimonio non metta in conto questi interrogativi non è pronta per sposarsi, perché essere pronti meno, come dice un proverbio cinese meno, vuol dire sperare il meglio, ma intanto prepararsi al peggio. La torta nuziale e i sentimenti alle stelle non garantiscono l'armonia matrimoniale. La voce dello sposo non si lascia attendere. 4. 1. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi dietro il tuo velo somigliano a quelli delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galad. 4. 2. I tuoi denti sono come un branco di pecore tosate che tornano dal lavatoio. Tutte hanno dei gemelli, non ce n'è, è una che sia sterile. 4. 3. Le tue labbra somigliano a un filo scarlatto, la tua bocca è graziosa, le tue gote dietro il tuo velo sono come un pezzo di melagrana. 4. 4. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita per essere un'armeria, 1000 scudi vi sono appesi, tutti gli scudi dei valorosi. 4. 5. Le tue mammelle sono due gemelli di gazzella che pascolano tra i gigli. 4. 6. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, io andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso. 4. 7. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te. Lo sposo continua una serie di complimenti per noi difficili da comprendere, perché la sposa viene paragonata agli animali e alla natura. Ma per capire ciò che afferma l'amante è sufficiente il desiderio da parte nostra di fare dei complimenti ad una ragazza, esprimendo paragoni con i mezzi che abbiamo oggi per vivere. Ci troveremo veramente in serie difficoltà. Il brano quindi com'è? Il resto del libro rimane veramente un capolavoro poetico. Questo brano mette in evidenza una realtà. Agli uomini piacciono le belle donne, e ciò rende sempre più importante il ruolo degli occhi nella sessualità. Questo non deve essere ritenuto un peccato o qualcosa di disdicevole, perché fa parte della natura creata che è anche maschile. Dio stesso riconosce al profeta Ezechiele che sua moglie era la delizia dei suoi occhi, Ezechiele 24:14-18, senza imputarglielo come una colpa. Evidentemente, Ezechiele guardava con piacere la sua partner. Forse le donne non lo comprendono, ma questo atteggiamento, da parte del marito, è una componente dell'amore. Troppe spose non si sentono a loro agio se il marito la guarda con piacere e la desidera. Un sentimento, questo, che fa parte della natura corrotta dell'essere umano, al punto che Agostino, il primo teologo cristiano, ad aver sistematicamente analizzato il legame fra sessualità e peccato, dichiarò: un uomo che ami troppo ardentemente sua moglie è adulterio. Solo la parola di Dio è in grado di purificare una coscienza guastata. L'amato dalla sulamita non ha nessun problema nell'esprimere tutto il suo ardore, parlando anche delle mammelle di lei. Una componente questa, tipicamente femminile, e che per l'uomo può essere sì ragione di concupiscenza, ma anche un elemento per gustare il diverso altrui, fatto ad immagine di Dio. Sì, perché occorrono un maschio e una femmina per essere ad immagine di Dio e non solo un maschio o solo una femmina. Soltanto colui che lo ha capito godrà della propria sessualità e anche delle diversità del proprio coniuge. Il tema centrale del Cantico dei Cantici è l'amore. E poiché questa è l'anima di ogni riflessione, è opportuno soffermarci su un altro aspetto. Come si è detto e si dirà ancora, amare qualcuno significa cercarne il benessere e la sua soddisfazione, ma anche questo principio deve essere calato in una realtà umana tale che si diversifica quanto i fiocchi di neve, nessuno è uguale all'altro. Questa è la ragione per la quale nella Bibbia non sono presenti indicazioni precise in relazione agli atteggiamenti da tenere per fare felice il nostro coniuge, se non quelle concernenti il principio dell'amore e la sottomissione. Il punto sta in come si debba esprimere questo amore e la sottomissione. Ho sentito una ragazza che nel conversare sul matrimonio diceva: «Se mi sposo, voglio che mio marito mi porti il caffè a letto, mentre altre spose te lo tirano in faccia. Alcune spose non vedono l'ora che il marito si ricordi dell'anniversario del loro matrimonio, come pure del loro compleanno. Mentre ho sentito una sposa, credo che siano poche, lamentarsi perché suo marito non mancava mai di portarle delle rose in occasione di 3 anniversari annuali, quello del fidanzamento, quello del matrimonio e il suo compleanno. Davanti a lui, di tanto in tanto, lei ripeteva: «Ma possibile che tu non riesca a dimenticarti un anniversario?» Ho saputo, in seguito, che al 35esimo anno di matrimonio l'uomo ha smesso di ricordare gli eventi e lei non si è più lamentata dell'affetto del marito. Come siamo diversi! Com'è difficile azzeccare la giusta maniera per esprimere il proprio affetto al prossimo. Con una persona, se vuoi chiarire un rapporto difficile, devi parlare. Con un'altra, più ne parli, più pensa che tu voglia litigare. Quanto più è difficile riuscire a compiacere il coniuge nell'esprimere il proprio affetto. Ci sono consorti ai quali, se non fai un regalo, si offendono. Altri si offendono se lo fai. Ecco perché è difficile sapere amare. In genere, facciamo agli altri ciò che piace a noi, ma ciò che noi gradiamo non necessariamente soddisfa il nostro compagno. Se nel lato amoroso a te piacciono i preamboli, è probabile che al tuo partner non piacciano, e in questo caso non dovrai fare quello che a te piace. Se per te al momento intimo è bello dedicare un tempo prolungato, è probabile che il tuo partner voglia il puro atto tecnico, doveroso e sbrigativo. Così anche in questo caso amare il proprio coniuge significa fare ciò che a te non piace, ma che piaccia al tuo partner. Come è stato detto, amare è un'arte. E un'arte non si impara da un giorno all'altro. Però nel momento in cui vuoi amare, nonostante tutto, è già iniziato l'amore. Lo sposo continua a chiamare la sua amata. 4. 8. Vieni con me dal Libano, o mia sposa, vieni con me dal Libano. Guarda dalla cima dell'Amana, dalla cima del Sanire e dell'Ermon, dalle spelonche dei leoni, dai monti dei leopardi. 4. 9. Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia. Tu mi hai rapito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi, con uno solo dei monili del tuo collo. 4 e 10. Quanto sono dolci le tue carezze, o mia sorella, o sposa mia. Come le tue carezze sono migliori del vino, come l'odore dei tuoi profumi è più soave di tutti gli aromi. 4 e 11. Sposa mia, le tue labbra stillano miele, miele e latte sono sotto la tua lingua, l'odore delle tue vesti è come l'odore del Libano. Lo sposo è estasiato dagli sguardi della sposa, dai suoi baci, dal profumo delle sue vesti. Tutto questo ci porta a riflettere quanto fosse importante per la sposa piacergli. Una sposa che ama il suo sposo cercherà di attirare il suo uomo non solamente nel rapporto sessuale, ma nello svolgersi normale della vita quotidiana. Infatti, un grave errore di alcune spose è quello di trascurarsi una volta passata la luna di miele. Forse lo fanno apposta per non essere desiderate, oppure perché sono demotivate nel rapporto di coppia. Per queste mogli il marito è come morto e ogni altra attrazione non ha interesse. Lo sposo della Sulamita invece rimane rapito dalla sposa e questo si accorda con l'invito di Dio: «Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù». Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. PR 5, 18-19. Che bel quadro matrimoniale! Lo sposo decanta le carezze della sposa. Un matrimonio senza carezze non è concepibile. Se piace alle spose essere a carezzare, non è di meno per gli uomini che le amano. Spesso una carezza vale molto più di 1000 parole. Valorizzare le carezze più del vino, come ha fatto il marito della Sulamita, significa metterle al di sopra di uno dei piaceri più belli della vita, perché il vino rende gaia la vita, e c. 10 e 19. Mentre il rapporto sessuale in una coppia per legge di natura è destinato a diminuire e scomparire, le carezze possono esistere sempre e anzi aumentare col passare del tempo. Una coppia che non sa accarezzarsi, che non sa toccarsi ovunque con affetto, ha perso moltissime soddisfazioni e gioie. Una carezza può rapire il cuore di un uomo, come abbiamo letto nel nostro poema, più di tanti rapporti sessuali. Se le spose sapessero questo, se i mariti facessero questo, una coppia che si nutre anche di carezze molto difficilmente arriva a separarsi, anche perché certi accarezzamenti possono sostituire un rapporto sessuale se espressi con il giusto affetto. In questo modo, alla donna non è chiesto qualcosa di specifico e all'uomo è chiesto una continua tenerezza. I complimenti dello sposo non si fermano. 4:12 Oh mia sorella, oh sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. 4:13 I tuoi germogli sono un giardino di melagrani ed alberi di frutti deliziosi, di piante di cipro e di nardo. 4:14 Di nardo e di croco, di canna odorosa e di cinnamomo, e di ogni albero d'incenso, di mirra e d'aloe, e di ogni più squisito aroma. 4:15 Tu sei una fontana di giardino, una sorgente. Soffiate sul mio giardino perché se ne spandano gli aromi. Venga l'amico mio nel suo giardino e ne mangi i frutti deliziosi. Notiamo i tre nomi che l'uomo spesso attribuisce alla sua amata: sorella, sposa, amica. L'amico è colui col quale si passa volentieri il proprio tempo, qualcuno con cui ci si diverte e si gioca insieme. L'amicizia è il reattore nucleare che fa andare avanti la nave coniugale e la tiene in rotta, nonostante le molte tempeste e nubifragi. L'amicizia è il sale che rende il piatto gustoso e lo mantiene mangiabile. Una sorella è una persona che vive con te e con la quale qualche volta hai litigato, ma alla quale, alla fine, ti puoi sempre avvicinare per chiedere consiglio o aiuto. La relazione tra fratello e sorella, in genere, è profonda, costituita da un lungo vissuto, che difficilmente si dimentica. Una sposa è una donna per un solo uomo. Non importa quanta erba più verde possa esserci nella giardino del vicino, ma lei non scavalcherà mai la siepe. Se la sposa per lo sposo non è anche sorella e amica, il matrimonio va avanti lo stesso. Come procede una macchina anche senza tanti accessori, ma vengono a mancare certi elementi che renderebbero il matrimonio più completo. Anzi, lo renderebbero ancora più stabile, perché un'amicizia vera difficilmente si interrompe. E dove non unisce un rapporto matrimoniale può farlo l'amicizia. Così, un rapporto di fratellanza tra due sposi, creatosi nel tempo, può unire più di tante promesse. Un matrimonio si può incrinare perché due sposi pretendono ciò che si aspettano di ricevere, e se non lo ricevono si sentono privati di un bene. Se invece vi è anche una relazione di amicizia e di fratellanza, queste sono meno esigenti e possono sopperire ad altre mancanze coniugali. Un moglie che sia anche sorella e amica è un bene che pochi uomini realizzano. E se lo realizzano, vi è dietro un lavoro non indifferente. Se poi vi è anche una sincera e incessante preghiera in compagnia, una corda a tre capi non si rompe così facilmente. Lo sposo paragona la sua sposa ad un giardino, ad una sorgente chiusa e una fonte sigillata. Sono tre immagini o paragoni che rivelano una caratteristica di fondo, l'inaccessibilità. Infatti, la moglie è, sì, un bene, come un giardino nel quale si possono raccogliere tante delizie, o una benedizione, come una sorgente o una fonte. Quando assetato, chiedi ciò di cui hai bisogno, ma deve esserlo solo per il marito e non accessibile a tutti. Questo dovrebbe far pensare quelle ragazze facili di costumi, che si concedono più o meno facilmente in effusioni amorose, così piuttosto di essere giardini chiusi o fonti sigillate, sono giardini pubblici e fonti inquinate, sembra che la riservatezza dei propri sentimenti, del proprio corpo, siano andati perduti. Senza poi parlare della massima libertà con la quale i giovani fanno sesso. Quando ero ragazzo non eravamo certamente più bravi dei giovani di oggi, ma la morale comune dettata dalla religione ci impediva di andare oltre i limiti. Mentre al giorno di oggi, scavalcati i recinti di un'etica religiosa e culturalmente imposta, quasi ogni cosa è lecita. Forse non quasi ormai, tutto è lecito nel campo sessuale. Gli aromi più squisiti e le piante aromatiche più rare delle quali parla lo sposo sono solo per lui e solo allora la sposa diventa una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. La sposa riconosce quanto tutto ciò sia intimo e privato ed invita lo sposo a godere dei risultati del giardino. Sì, una moglie è tale quando desidera che il marito sia partecipe di ciò che le appartiene, quando è soddisfatta che il suo sposo goda di lei. Per questo il libro Cantico dei Cantici, anziché procurare un certo imbarazzo, dovrebbe e deve suscitare nei giovani un sano desiderio di attesa, per esprimere la propria sessualità al momento opportuno in modo ardente e profondo, come è per la sulamita e il suo sposo. Anziché inebriarsi di fantasie erotiche o idilliache, i giovani, e non solo loro, devono cogliere in questo poema dedicato all'amore umano un inno al rapporto tra una donna e un uomo, visto nella sua concretezza e nel suo fascino. Il Cantico dei Cantici non dice nulla di impronunciabile, anzi afferma tutto quello che tanto i giovani quanto una coppia più matura dovrebbero sapere. Non dice nulla, come certi libri pornografici, che soddisfi la nostra insana curiosità, ma parla di amore, di tenerezza, di affetto, di attrazione, di desiderio, di sano possesso, cose che devono costituire una vera e umana relazione tra un uomo e una donna, per stabilire una dialettica fisica a due livelli. Mentre la pornografia si inabissa nel fascino mortale di corpi senza presenza, che non rimandano mai ad altro che al nulla, il Cantico dei Cantici esprime al massimo la realtà umana di due corpi diversi, fatti l'uno per l'altro, per completarsi e liberarsi. Infatti, lo scambio dei corpi esprime, ma non esaurisce, un dono reciproco di due libertà che, nel loro ardore, dicono «Venga l'amico mio nel suo giardino e ne mangi i frutti». Deliziosi! Ogni frutto, colto nel rapporto coniugale, si può e si deve mangiare. Prima di continuare a riflettere sul libro Cantico dei Cantici, mi sembra opportuno fare alcune riflessioni in merito al fidanzamento, un tema sempre valido in ogni generazione dato che il matrimonio è una costante anche dei cristiani. Mi vedo costretto a parlarne, perché vi è l'insanabile desiderio di sposare chi ci piace, senza considerare se chi sposiamo possiede la stessa fede. Troppo spesso i nostri sentimenti ci condizionano più della volontà di Dio, e per questo i giovani pongono la domanda: è giusto sposare una persona non credente? Dove troviamo scritto nella Bibbia che Dio vieta i matrimoni misti? È vero, la Bibbia è avara di affermazioni che proibiscano i matrimoni misti, come è scarsa in affermazioni in merito a se sia giusto o meno fumare. Ma il colmo dei colmi è che in tutta la Bibbia vi è il continuo divieto da parte di Dio di sposare persone che non abbiano la stessa fede. La parola di Dio divide la razza umana in due grandi famiglie, i figli di Dio e i figli del diavolo, 1 Giovanni 3:10. Nel mondo, a distinguere una famiglia da un'altra, sono i comportamenti, le abitudini, il linguaggio, la religione, la politica e tante altre cose che sono stabilite dai genitori. Questo è valevole anche nel campo spirituale. Appartengono alla famiglia di Dio tutti coloro che hanno accettato la volontà di Dio, tutti coloro che sono disposti a lasciar modellare il proprio comportamento di vita secondo i principi eterni della Scrittura. Tutti quelli invece che vivono secondo i desideri del loro cuore, secondo i criteri propri o dell'opinione pubblica, e non si sottomettono al volere di Dio, appartengono al diavolo. Figli di nessuno non ce ne sono. Tra i peccati commessi dal popolo di Israele, tanto da essere allontanato amaramente e per sempre dal territorio promesso e dato da Dio, compare l'aver sposato donne di altre fedi, al punto che perfino il sapientissimo e saggio Salomone, a causa dei suoi matrimoni sbagliati, arrivò perfino all'idolatria. 1 Re 11, 1.13, Neemia 13.26. Il problema dei matrimoni misti esisteva anche al tempo dei primi cristiani, tanto che l'Apostolo Paolo ha dovuto ammonire i credenti libertini di Corinto, ponendo loro le seguenti domande: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché? Quale relazione ci è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione ci è tra la luce e le tenebre? E quale armonia ci è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo ci è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. 2 Corinzi 6, 14-18. Se ci separiamo dagli increduli, Dio sarà come un padre per noi, e noi gli saremo come figli. Diversamente, non possiamo sperare da Dio un atteggiamento paterno, ma il suo giudizio sarà sul nostro matrimonio. Lo sposo della sulamita non riesce a nascondere la sua gioia. 5. 1. Sono venuto nel mio giardino, o mia sorella, o sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Lo sposo ha accettato l'invito della sposa e ha goduto di ogni benedizione da ella proveniente. Aromi, miele, vino, latte. Tutto ciò si riferisce alla coppia che sa realizzare tutti i doni insiti nel matrimonio. Se un matrimonio non è profumato, o attraente, aromi, dolce, o piacevole, miele, inebriante o eccitante, vino, sostenitore o di aiuto reciproco, latte, ha fallito lo scopo per cui Dio lo ha istituito. Con ciò non si vuole intendere che due sposi debbano continuamente vivere in una atmosfera idilliaca da viaggio di nozze, ma vedere nella relazione di coppia la più grande sfida per sviluppare le virtù cristiane quali l'amore, la pazienza e la sopportazione. Nel profondo del nostro essere umano ci è la convinzione che il matrimonio sia un distributore automatico di gioie e di piaceri, dove, finalmente, realizziamo i nostri sogni e, ancora più importante, pensiamo di aver trovato l'uomo o la donna che ci rendano felici. Un'aspirazione più che umana, ma forse anche la più ingannatrice su questa terra. Quando due giovani vengono a comunicarmi del loro desiderio di sposarsi, faccio un brevissimo corso sul matrimonio, composto di alcune domande, la prima delle quali rivela molto la loro maturità nell'affrontare questo passo. Perché hai scelto proprio lui o lei? Le risposte sono le più svariate, come perché gli voglio bene, perché lo amo, perché vogliamo essere felici, perché mi piace. Al che rispondo subito: e quando non ti piace più? Quando non lo ami più? Quando non siete più felici? Cosa fate? I giovani comprendono subito di essere molto impreparati al matrimonio e, dopo un silenzio prolungato creato apposta, rispondo: vi rendete conto che la vostra unione parte con il piede sbagliato? Se volete iniziare con una buona motivazione che renda granitico il vostro matrimonio, sia uno solo il vostro obiettivo: rendere felice l'altro. Se lo scopo della vostra scelta non sarà tanto di essere felici, ma di rendere felice l'altro, di renderlo il più possibile appagato, se fate a gara per raggiungere questo scopo, non vi è nessuna infiltrazione negativa che possa frantumare il vostro legame. Nel dire questo mi rendo conto di aver scoperto semplicemente l'acqua calda, perché Gesù ha ordinato di amare il prossimo come noi stessi. E se io desidero con tutto il mio cuore essere felice, farò altrettanto verso il prossimo più prossimo, cioè il mio coniuge. Nel nostro testo abbiamo notato che lo sposo invita altri a realizzare un buon matrimonio, invita gli amici a mangiare, a bere e a inebriarsi d'amore, cosa possibile solo a chi è felicemente sposato. Se il tuo parlare scoraggia le persone a sposarsi, rivela la tua immaturità. Ricordo ancora ciò che ha affermato una psicologa. Un uomo è giovane quando una donna può renderlo felice o infelice. Un uomo è vecchio quando una donna non può renderlo più né felice né infelice. Un uomo è maturo quando una donna può renderlo felice e non più infelice. Ora la sulamita racconta un sogno. 5. Due veio, dormivo ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice: «Aprimi!» «Sorella mia, amica mia, colomba mia, oh mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte. 5. 3. Io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterei ancora? Mi sono lavata i piedi, come li sporcherei ancora? 5. 4. L'amico mio ha passato la mano per la finestra e il mio amore si è agitato per lui. 5. 5. Mi sono alzata per aprire al mio amico e le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida, sulla maniglia della serratura. 5. 6. Ho aperto all'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito. Ero fuori di me mentre gli parlava. L'ho cercato ma non l'ho trovato. L'ho chiamato ma non mi ha risposto. 5. 7. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno battuta, mi hanno ferita. Le guardie delle mura mi hanno strappato il velo. 5. 8. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amico, che gli direte? Che sono malata d'amore. Ancora una volta la sposa fa un sogno. Essa viene cercata dallo sposo ma rifiuta la propria disponibilità. Le ragioni del suo rifiuto, cioè essersi tolta la gonna e lavata i piedi, sembrano futili. Ma se si considera che, in Oriente, nel luogo dove dormivano gli sposi, non era raro trovarvi anche animali, 2 Sa 12.3 e altre persone, le ragioni potevano essere giustificabili. L'amato ha insistito, cercando di aprire la finestrella della porta, una finestrella che hanno tuttora in certe località dell'Oriente e non solo, e la sposa si è agitata per la sua insistenza, ma quando ha deciso di essere disponibile, lo sposo non c'era più. Questo sogno mette in evidenza una certa realtà matrimoniale. Quando la sposa trova futili motivi per rifiutarsi allo sposo, quando in seguito deciderà di essere disponibile, lo sposo potrebbe anche essere indisposto. Se è vero che gli uomini dovrebbero essere donne per capire la loro delicata sessualità, è anche vero che le donne dovrebbero essere uomini per capire il loro complesso istinto sessuale e ciò che provi un uomo davanti ad un rifiuto. Ho presente la testimonianza di una sposa che si lamentava spesso con me delle avance di suo marito. Voleva essere lasciata in pace. Passarono gli anni e lei subì un intervento di asportazione di un seno. In queste condizioni in parte si sentiva defraudata della sua femminilità e avrebbe voluto essere desiderata dal marito. Ma ormai era troppo tardi. Benché il marito fosse abbastanza giovane non la desiderava più. Mi ha confessato che se non fosse stata credente si sarebbe concessa al suo dottore, con il quale aveva instaurato un buon rapporto. È evidente che non tutte le mogli passano per questa esperienza traumatica, ma certi episodi devono farci riflettere perché, come è stato ben detto, una moglie potrà dimostrare il suo amore in 100 modi, ma tutto ciò spesso perde il suo valore se lei rifiuta il rapporto sessuale, meno. Secondo la scrittura in genere il sogno avviene per le molte occupazioni o affanni, Eccea 5.7, e questo concorda con un principio degli psicologi, i quali vedono in essi una proiezione del nostro inconscio, una parte del nostro essere, che non possiamo togliere e né dovremmo ignorare. Anche la sulamita, nel sogno, evidentemente ha proiettato una sua mancanza nei confronti dell'amato. La propria indisponibilità. Occorre essere realisti nell'ambito della sessualità, perché a nulla serve continuare a ignorare una componente così importante. Noi ci sposiamo perché abbiamo bisogno dell'altro. Inutile nasconderlo. Se così non fosse, sceglieremmo il celibato. avere bisogno dell'altro. Non è sbagliato, perché quando Cristo creò Adamo disse a se stesso: non è bene che l'uomo sia solo. Eppure, Adamo non era solo, aveva la presenza di Cristo e degli animali. Viveva in un creato perfetto, tutto sorrideva, ogni cosa cooperava per il suo bene, eppure qualcosa mancava. Cristo lo sapeva. Così creò un essere simile a lui, però al femminile. Nulla di strano, perché Cristo aveva già creato Adamo come maschio, cioè una creatura perfetta in tutte sue funzioni ma incompleta. Aveva bisogno di una femmina, che a sua volta aveva bisogno di un maschio. L'ordine poi di procreare ha messo in evidenza la loro incompletezza. Avevano indispensabilmente bisogno l'uno dell'altro. In questo modo, nell'Eden, dove tutto era perfetto, la natura vegetale, gli animali e Adamo ed Eva, erano incompleti. In quanto esseri a sé stanti e ciò che era maschile aveva bisogno del femminile. È vero che la relazione sessuale del regno vegetale e animale non ha bisogno di tenerezza e affetto, come è invece per la razza umana, ma al di là dei sentimenti, il bisogno dei bisogni nella donna e nell'uomo in questo mondo imperfetto rimane comunque l'appagamento sessuale. In questo modo l'uomo e la donna che si sposano perché hanno terribilmente bisogno sessualmente l'uno dell'altro devono andare contro natura, quell'inclinazione che tende a trasformare un lecito bisogno in un'espressione profondamente egoista e pensare all'altro più che a se stessi. In questo contesto, il rifiuto della Suramita come quello di qualsiasi donna, non casuale né raro, può provocare nell'uomo un'esplosione dell'equilibrio psichico e fisico, al punto da portare certi uomini a gesti estremi. Ovviamente, tale realtà esiste anche per la donna, ed è per questo che dovrebbe nascere in ciascuno di noi una coscienza più sensibile nei confronti della necessità sessuali del proprio partner, anche quando non ci sono tutti gli elementi di tenerezza e affetto che si vorrebbero e che ci dovrebbero essere. Per alcuni sarà una bestemmia, ma in questo modo si deve scorporare, cioè dividere, la sessualità dai sentimenti. E questo perché il peccato ha corrotto ciò che Cristo aveva creato di molto buono. Genesi 1.31. In merito poi alle guardie della città che feriscono la sposa e le strappano il velo, possono simboleggiare le conseguenze del suo immotivato rifiuto. La sposa che ferisce rimane ferita. Ciò che emerge in questo libro è la bellissima relazione d'amore esistente tra uno sposo e una sposa. E quando si parla relazioni, non si può prescindere dal modello esistente nel Dio Trino. Secondo la dottrina cristiana, tramandata una volta e per sempre nella divinità consistente in una unica natura divina eterna, sussistono tre persone. Dio è uno, ma non è solo. Dio è Trino, diversamente non è. Proprio per questa peculiarità, all'interno della divinità sussiste una relazione unica ed eterna, relazione che rivela le caratteristiche di ogni persona esistente al suo interno, ognuna delle quali è ben distinta dall'altra, per quanto partecipante alla stessa natura eterna. La persona del Padre non è quella del Figlio e dello Spirito Santo, la persona del Figlio non è quella del Padre e dello Spirito Santo. La persona dello Spirito Santo è distinta da quella del Padre e del Figlio. Proprio perché vi è un solo Dio in tre persone è possibile che in seno alla Trinità vi sia un rapporto, perché se Dio fosse uno nel senso numerico assoluto, se non vi fosse l'alterità di un'altra persona con la quale relazionarsi, non vi sarebbe relazione ma solo sussistenza. Così, quando si afferma che Dio è amore, questa dichiarazione ha la sua ragion d'essere, perché in seno alla divinità vi sono l'amante e l'amato, aventi le caratteristiche di ciò che ognuno è: la persona del Padre è il Padre, la persona del Figlio è il Figlio, la persona dello Spirito Santo è, per una certa teologia, la Madre. Così è per tutte le definizioni attribuite a Dio: pietoso, clemente, santo, giusto, eccelso. definizioni queste che non avrebbero senso se non fossero rapportate a ciò che è, o si presenta come altro, senza l'altro, un diverso, anche se partecipe della stessa natura, nessuna definizione ha senso. È come dire che esiste il bianco. Se non ci fossero altri colori, il colore non esisterebbe. Se non ci fosse il buono, il cattivo non avrebbe senso. Perciò, se vogliamo comprendere in che cosa consiste una relazione, dobbiamo considerare e vivere ogni nostro rapporto, che rispecchi il modello delle relazioni esistenti nella Trinità. Per questo, il rapporto più profondo per ogni creatura è quello umano. Purtroppo, l'esperienza insegna che, nella maggioranza dei casi, tra gli esseri umani non si va oltre una melensa convivenza. È vero che ogni giorno, in ogni momento, si vive a contatto con gli altri, ma simili rapporti non vanno oltre a ciò che è pragmatico, accademico, quel tanto necessario per una vita in comune. Eppure, l'uomo è stato creato per avere una relazione con il suo prossimo, perciò se non raggiunge questo obiettivo, ha fallito l'obiettivo della sua esistenza. Anche la relazione matrimoniale, che dovrebbe essere una delle più profonde, e quella rappresentante la relazione trinitaria, è spesso vissuta con un egoismo di livello estremo. E dove vi è egoismo, non vi è partecipazione né relazione. Non è sufficiente abitare sotto lo stesso tetto. Non è sufficiente fare sesso, perché relazione umana significa partecipare alle cose profonde dello spirito, oltre a quelle dell'anima e del corpo. E di questo pochi sposi fanno esperienza. Molti sposano se stessi, non un'altra persona con la quale relazionarsi. E, dato che una relazione presuppone impegno, sofferenza, la capacità di aprirsi senza vergogna o timore, si preferisce rapportarsi solo con se stessi. Contento io, contenti tutti. Le amiche della sposa intervengono. 5. Noventi, chi è dunque l'amico tuo più di un altro amico? O la più bella fra le donne, che è dunque l'amico tuo più di un altro amico che così ci scongiuri? A questo punto le amiche della sposa si chiedono chi possa essere questo sposo tanto desiderato dalla sposa. Che cosa può avere il suo amato di tanto particolare da renderla malata d'amore e essere l'oggetto dei suoi sogni notturni? Bisogna tener conto della reazione delle amiche della sposa, perché spesse volte le mogli, dopo aver parlato del loro marito, producono negli ascoltatori il desiderio di sapere quali sono i difetti dello sposo piuttosto che i pregi. Ricordiamo che il marito della donna virtuosa, nominata nel capitolo 31 dei Proverbi, è rispettato alle porte della città. Quando si siede tra gli anziani del paese, che opinione hanno in merito a tuo marito le persone del paese dove abiti? Che opinione hanno le persone della comunità religiosa alla quale appartieni? Forse puoi rispondere di non avere responsabilità alcuna in merito, perché una reputazione non si può imporre. Ma se anche questo è vero, buona parte della nomea di tuo marito dipende dal te. Tutto deriva da come reagisci di fronte alle critiche rivoltegli. Innanzitutto, una critica è sempre al di sopra della realtà. Perciò il primo compito di una moglie saggia e virtuosa sarà esaminare gli eventuali eccessi del giudizio. In seguito, dato che tutti, ma proprio tutti, abbiamo non solo dei difetti, ma anche delle virtù, prova a elencare anche le virtù di tuo marito e vedrai che spegnerai i giudizi esagerati e con essi anche la voglia della gente di voler parlare male di tuo marito. Sta scritto: una buona reputazione vale più dell'olio profumato, Eccetera 7.1. Perciò parla di tuo marito, in modo che gli altri desiderino conoscerlo. Quando annunciai ad una moglie il messaggio del Vangelo, questa mi parlava tanto bene di suo marito, da suscitare in me il desiderio di conoscerlo. Lo stesso giorno che lo conobbi, il marito diede la sua vita a Cristo. Ovviamente tutto questo è possibile solo se tu ami tuo marito, altrimenti, se nutri dei rancori o il desiderio di rivendicarti, sarà molto difficile per te fare in modo che gli altri parlino bene del tuo sposo. Del resto, è poi quello che tu vorresti. Ovviamente quello che vale per la moglie vale anche per il marito, come sta scritto. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. 1 P. 3, 7. Con la propria lingua gli sposi possono dare vigore o distruggere il loro matrimonio. Lo sposo non era certamente perfetto, ma la Sulamita era talmente malata d'amore che le altre donne la invidiavano. Un coniuge che riesce in questo intento ha raggiunto un traguardo non indifferente. La Sulamita descrive le caratteristiche dello sposo. 5.10. L'amico mio è bianco e vermiglio e si distingue fra 10.000. 5.11. Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe nere come il corvo. 5.12. I suoi occhi paiono colombe e riva ruscelli che si lavano nel latte montati nei castoni di un anello. 5.13. Le sue gote sono come un'aia d'aromi, come aiuole di fiori odorosi, le sue labbra sono gigli e stilano mirra liquida. 5.14. Il suo aspetto è come il Libano, superbo come i cedri. 5.16. Il suo palato è tutto dolcezza, tutta la sua persona è un incanto. Tale è l'amore mio, tale è l'amico mio, o figlie di Gerusalemme. Anche la descrizione dello sposo da parte della sposa non difetta di immaginazione, ma la descrizione simbolica ha sempre un suo significato letterale. 1. Il bianco è segno di purezza. Lo sposo ha gli occhi come le colombe, che sono bianche, che si lavano nel latte, il quale è a sua volta bianco. Qual è l'uomo che attira la donna per la sua purezza? 2. L'oro ci parla della santità. Il Tempio di Gerusalemme era ricoperto d'oro. La santità deve essere la prima caratteristica di un uomo e di uno sposo. Quando un uomo è corretto non può che suscitare affetto. 3. La dolcezza rende lo sposo un incanto. Questa è forse una delle qualità più rare per un uomo, soprattutto per uno sposo. Eppure, come leggiamo nella Bibbia, la dolcezza aumenta il sapere. PR 16 e 21. Previene grandi peccati. EC 10 4. Calma l'ira. PR 15 1. È il condimento di un matrimonio. 1 P 3 14 16. Se come sta scritto, le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa, PR 16 e 24, molti mariti dovrebbero pensare alla ragione di certe mancanze di salute delle loro mogli. Una moglie frustrata è una donna malata. Ma se le parole gentili del marito sono un favo di miele, se il miele ha proprietà terapeutiche di ogni genere, una moglie si sentirà a suo agio quando sente parlare il marito. Se le parole del marito sono dolcezza all'anima, allora la moglie troverà in questa vita amara quel desiderio gradevole di vivere e di vivere e di vivere e lottare con lui. Se le parole del marito sono salute alle ossa, tanti mariti avrebbero delle mogli più sane al loro fianco e desiderose di stare loro vicino. La riuscita di un matrimonio non sta solo nel gran numero di anni vissuti insieme, anche perché un divorzio per molti risulterebbe una sconfitta, ma nel desiderare di stare sempre assieme. Che anche tu possa dire di tuo marito, con la Sulamita, tutta la sua persona è un incanto, tale è l'amore mio. Le amiche della sposa sono sempre più interessate. 6.1. Dov è andato il tuo amico, o la più bella fra le donne? Quale direzione ha preso l'amico tuo? Noi lo cercheremo con te. Le amiche della sposa, dopo aver da lei sentito la descrizione dello sposo, sono interessate a trovare e conoscere lo sposo. Quando tu parli di tuo marito, produci la stessa reazione nelle tue amiche? E qui entra in gioco un'altra realtà del matrimonio. Che altre donne apprezzino tuo marito è cosa buona, ma bisogna guardare ciò che non è conveniente. Non è opportuno che gli apprezzamenti vadano oltre la realtà. Una donna innamorata è una donna esaltata, nelle parole della quale a volte può essere facilmente colto un certo entusiasmo oltre misura. Le donne in genere hanno un sesto senso che le abilita a cogliere prima degli uomini i sentimenti umani, e mentre l'uomo è accecato nel suo compito della procreazione, la donna avverte i sentimenti che muovono tale compito. Però le donne hanno anche un'altra qualità. Sanno nascondere molto bene i loro sentimenti e possono diventare l'amante del marito della propria amica senza che questa se ne accorga. Tutto è possibile. Ma una sposa guardinga sarà in grado di comprendere se il marito la tradisce oppure no. Difficilmente un marito può avere una relazione sentimentale e sessuale di uguale intensità con più donne. Perciò, quando una moglie vede certi cambiamenti, dovrebbe allarmarsi. Se è quello che desidera, nulla da aggiungere, ma se il suo scopo è tenere unito il matrimonio, la moglie saggia cercherà non lo scontro, ma un rapporto più intenso, sia sentimentale sia sessuale, in modo che salti fuori la vera ragione dei cambiamenti sospetti. Ho conosciuto donne che hanno fatto pedinare il marito per un sospetto tradimento, ma questo è il frutto di una mancanza di rapporto nel matrimonio. E la moglie in tal modo non risolverà nulla se non l'avere la prova del tradimento per separarsi legalmente. Credo però che far pedinare il marito o la moglie sia la strada giusta. Ormai ciò che è fatto. Se invece una moglie ha una qualche possibilità di recuperare il marito e così anche la vita matrimoniale, ciò sarà possibile mediante due principali obiettivi. Il primo è quello di volere salvare il matrimonio con tutta la propria volontà, anche a costi altissimi, che possono essere l'umiliazione e la rinuncia a varie cose. Di seguito, il tuo sposo diventerà l'obiettivo principale della tua vita. A lui dedicherai la maggior parte del tuo tempo. È anche vero che è inutile nascondere la testa nella sabbia, perché vi sono situazioni decisamente irreversibili. E se anche dopo aver fatto tutto il possibile, ma proprio tutto, per recuperare lo sposo, il matrimonio non ha comunque successo, una verità rimane granitica. È meglio aver amato il perduto che non aver amato affatto. I risultati appartengono a Dio, a noi restano i sani obiettivi. Del resto, non ha forse fatto così anche il Dio dei cristiani? Non ha forse amato? E chi ha risposto al suo amore? Desidero posare un attimo l'attenzione sul termine moglie, anche se per gli ebrei, come in qualsiasi altra cultura, il termine sposa è sinonimo di moglie. Noi parliamo di un'amica, di una sorella, di un amante, di una serva, di una sposa e di una moglie. Ogni parola esprime una relazione diversa e particolare. Una sorella è una donna nata dagli stessi genitori alla quale si è legati in virtù di un vincolo di sangue. Un'amica è colei con la quale abbiamo un rapporto di scambio amichevole, di vedute e di confidenze. Una serva è una donna di servizio con la quale si ha una relazione di dipendenza. Se parliamo di un amante, subito pensiamo ad un rapporto basato soprattutto su di una relazione sessuale. Se ci riferiamo ad una geisha, pensiamo ad un rapporto di estremo servilismo di ogni genere, compreso quello sessuale. Una sposa, invece, è colei che è legata da un contratto con un uomo. E la moglie? Chi è una moglie? Cosa distingue una moglie da una serva, una sorella, un amante, un'amica o una geisha? Dobbiamo subito dire che essere moglie non significa necessariamente essere esenti dalle caratteristiche peculiari a una sorella, a un'amica, a una serva, a un amante, a una geisha o una sposa. Tutt'altro. Una moglie è colei che vuole costruire e costruisce con il suo uomo. È quella che desidera capire e capirsi, relazionandosi in profondità con il marito, allo scopo di crescere con lui. È quella che ascolta veramente e che prende sul serio le parole del suo compagno. È colei che segue il marito in tutti gli angoli e recessi della vita e dei sentimenti. È quella che si intromette, con dolcezza e saggezza, in ogni aspetto dell'essere del suo uomo, allo scopo di fargli del bene e non per esercitare un controllo su di lui. Una moglie non ha più una sua vita, e non ritiene più alcuna distinzione fra mio e tuo, ma vive con la concezione del noi. Lei vive il tutto al plurale, pensa al plurale e agisce al plurale. Quando il marito è onorato, lei si sente onorata. Quando il suo uomo è umiliato, lei si sente umiliata. Se non ha questo atteggiamento, non vive come una moglie, anche se è sposata, ma potrà essere una serva, un'amica, un amante, una geisha. Essere una sola carne non ha unicamente il significato di due corpi partecipi di un'esperienza comune. Si tratta di qualcosa che va ben oltre. Perciò non vi sarà più il mio e il tuo corpo, ma il nostro corpo. L'uomo e la donna restano sì due anime separate, ma hanno talmente costruito al plurale da avere una intesa anche emotiva, da vivere il noi in tutte le situazioni, al punto da non saper discernere, come accade in un rapporto sessuale, ciò che è proprio da ciò che appartiene al coniuge. Una moglie non è solo colei che accudisce un uomo, perché questo lo può fare anche una sorella, una serva, una geisha. Lei, dopo aver accudito il marito, dedicherà anche del tempo per approfondire il rapporto a due affinché questo diventi uno. E una frode spirituale sposarsi per poi continuare a vivere come se si fosse ancora single. Una moglie accetta coraggiosamente la realtà, accetta il proprio coniuge così com'è, senza perseguire un sogno irrealizzabile, senza voler modellare il marito secondo il ritratto immaginario che abita nella sua mente. Una moglie è colei che è contenta che il marito sia diverso. La sulamita parla ancora del suo sposo, chiamandolo affettuosamente amico. 6. 2. Il mio amico è sceso nel suo giardino, nelle aie degli aromi, a pascolare le greggi nei giardini e cogliere gigli. 6. 3. Io sono dell'amico mio, e l'amico mio, che pascola il gregge tra i gigli, è mio. La sposa non intende spartire l'amore del suo sposo. Ribadisce l'intimità e la proprietà privata del loro amore coniugale. Questa insistenza sull'appartenenza non è altro che una dimostrazione di come sia il vero amore. Dio solo è in grado di amare tutti nella stessa maniera, ma noi esseri umani, limitati come siamo, non possiamo amare più persone o più cose con la stessa intensità. Lo disse Gesù quando affermò: nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. LC 16.1.3. Perciò, quando un coniuge non ritiene unico il suo partner, tale da non spartirne l'affetto, e se tale pensiero non è reciproco, per forza di cose, la relazione matrimoniale è incrinata. Anche in questo caso, occorre essere realisti, altrimenti si incappa nel pericolo di essersi innamorati dell'amore, cioè di pensare all'amore coniugale come qualcosa di idilliaco, che ti trasporta fuori dalla realtà. Quando una coppia si sceglie, lo fa con presupposti romantici spesso irreali, dettati dal desiderio di soddisfare egoisticamente le proprie necessità. In seguito, dopo piccole o grandi delusioni che si rinnovano ogni giorno, gli sposi si accorgono di aver amato le virtù del proprio partner, o ciò che pensavano essere tali. A questo punto le soluzioni possono essere due: o ci si lascia, o si continua a voler bene chi si è scelto. E questo è il difficile, perché ci si era scelti per certe ragioni, sbagliate o supposte, non più esistenti. In pratica ci si era innamorati non della persona che abbiamo di fianco in questo momento, ma di quella che si era immaginato fosse prima. Quando mio cognato, che era fidanzato, cadde da una montagna, andò in coma e conseguentemente restò paraplegico per tutta la vita. La fidanzata, che ne aveva aspettato con pazienza la guarigione, dopo circa un anno, dovette dire: «Io mi ero innamorata di altro uomo. Ora non lo riconosco più». E lo lasciò. Dire come la sulamita: «Io sono di mio marito e mio marito è mio», significa accettare incondizionatamente tutta la sua persona. Una persona che oggi è così, ma che domani può anche cambiare, sia negli affetti sia nel fisico. Un giovane uomo del mio paese ha perso, sul lavoro, tutti e due gli occhi. La moglie si è così trovata a un cieco in casa, da un giorno all'altro. Dire che io sono del mio amico e l'amico è mio significa ammettere che anche i suoi limiti fisici e difetti morali sono tuoi. Se sono tuoi, perché li critichi? L'intimità dell'amore coniugale e la riservatezza del vostro rapporto non lo permettono. La preghiera costante e fervente di due cristiani è molto potente. Giacomo 5.16. Lo sposo risponde a questo amore intimo e privato. 6.4. Amica mia, tu sei bella come Tirza, vaga come Gerusalemme, tremenda come un esercito a bandiere spiegate. La bellezza della sposa viene paragonata a Tirza, la prima capitale del regno del nord, situata in una stupenda posizione. La sua graziosità, vaga, è paragonata a Gerusalemme, la capitale del regno del sud. La sua fermezza viene paragonata ad un esercito. Complimenti che fanno piacere ad una sposa. Uno sposo che non trova qualità nella sposa dovrebbe riflettere. Una moglie, per quanto poco valga, ha delle doti che il marito è chiamato a valutare e ad apprezzare. Anche questo aspetto del matrimonio non deve essere sottovalutato. Quando si è giovani e innamorati, bisogna frenare i complimenti, che a volte sono fin troppi. Ma quando si è sposati da un po' di tempo, bisogna imparare a fare complimenti, perché non bastano mai. Perché? Perché i complimenti fatti prima di sposarsi non scaturiscono da valutazioni oggettive della realtà, ma da come noi immaginiamo la persona amata. In seguito, quando i difetti del coniuge sono fin troppi evidenti, hanno la capacità di spegnere l'entusiasmo immaturo, giovanile. E qui entra in gioco il vero amore. Dire a una moglie: grazie, hai fatto un buon pranzo, quando in te i sentimenti sono del tutto sconvolti per un normale comportamento della tua partner che ti turba, non solo non è facile, ma si tratta di compiere una violenza ciclopica sulle proprie emozioni. Dire alla moglie ti voglio bene quando tutto vorresti dirgli, anziché quello, vuol dire uccidere le proprie emotività. Abbracciare una moglie, quando vorresti abbracciarne un'altra, anche questo è un gesto che costa molto. Forse qualcuno penserà che un tale comportamento sia ipocrita, ma Dio non ci chiede di essere fedeli ai nostri sentimenti, piuttosto ai principi che Lui ha stabilito, quali prima di tutto di amare il prossimo come noi stessi. E amare il prossimo non consiste nel provare chissà quali emozioni, ma piuttosto nel cercare tutto quello che a lui produce benessere e un incoraggiamento, una buona parola, un abbraccio naturale. Sono gesti che a tutti piacerebbe avere. Forse è per questo che molti matrimoni naufragano. Gli sposi si aspettano di sentire un trasporto sentimentale. Se ci è tanto meglio, ma come si può fare sesso anche senza emozioni, così si può lodare il proprio coniuge anche senza un vero trasporto sentimentale. Il miracolo è che in seguito i sentimenti si allineeranno ai gesti che compiamo. I sentimenti devono essere i vagoni della locomotiva dei nostri obiettivi e non la locomotiva stessa. Alla parola sentimenti, che spesso compare nei diversi testi biblici, dobbiamo dare il significato di obiettivi. Solo allora possiamo capire la promessa di Dio. A colui che è fermo nei suoi propositi, tu conservi la pace, perché in te confida. Isaia 26.3. Quante cose ci insegna il matrimonio? Continuano le lodi alla Sulamita. 6.5. Distogli da me i tuoi occhi, che mi turbano. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi di Galaad. 6.6. I tuoi denti sono come un branco di pecore, che tornano dal lavatoio. Tutte hanno dei gemelli. Non c'è, è una che sia sterile. 6.7. Le tue gote, dietro il tuo velo, sono come un pezzo di melagrana. Qualche interprete vede questi complimenti fatti non dallo sposo ma da qualcuno, animato da un certo interesse poco pulito per la Sulamita, perché a dire «distogli da me i tuoi occhi che mi turbano» non può essere lo sposo. Interessante anche questo particolare. È vero che quando una donna è preda di una corte spietata da parte di un uomo, se le accade di cedere a queste seduzioni, non è ritenuta responsabile, o comunque si trovano le attenuanti a suo favore. Ho assistito ad un dibattito televisivo dove si discuteva del tradimento di una donna a danno del marito. Nel corso del processo è risultato che la moglie è stata assolta perché non ha ricevuto le dovute attenzioni affettive da parte del coniuge. Tutto può essere comprensibile, ma una cosa è certa. Se la donna avesse avuto lo sguardo della Sulamita, che turbava il suo spasimante, è certo che il corteggiatore sarebbe scappato via, anziché continuare la sua politica di conquistatore. Come hanno valore gli sguardi? Come è importante sapere leggere gli sguardi? Ricordo la testimonianza di un giovane che era su di un tram e che, voltatosi, si rese conto che un uomo lo guardava in modo strano. Rimase scosso. In seguito divenne un figlio di Dio per la fede in Cristo e, nel ritrovare quell'uomo, gli chiese il perché del suo sguardo che l'aveva così impressionato. L'uomo rispose: «Ragazzo, stavo pregando per te. Così vale per il matrimonio. Per prima cosa gli sposi dovrebbero imparare a guardarsi negli occhi, anche dopo molti anni di matrimonio, perché spesso uno sguardo vale molto di più di tante parole. Un marito dovrebbe comprendere dallo sguardo della moglie se tutto procede bene o se ci sono difficoltà in corso, come la moglie dovrebbe capire se il marito è contento di stare con lei o la desidera. Se gli occhi, come disse Gesù, sono la lampada del nostro cuore, se ci crediamo dovremmo da oggi in poi osservare bene il nostro coniuge negli occhi e scopriremmo tante verità che fino ad oggi ci sono sfuggite. O forse non guardiamo negli occhi il nostro coniuge perché abbiamo paura che egli scopra qualcosa di noi, che non vogliamo rendergli noto. Il vero amore non ha nulla da nascondere, ma è teso a voler vivere a tutti i costi quel bellissimo rapporto che Dio vuole che esista nel matrimonio. È dunque vero che il matrimonio è una verifica della personalità intera, di ogni azione e ogni sguardo. Prima di continuare a esaminare il testo cantico dei cantici, faccio un'altra parentesi per dare valore a ciò che stiamo dicendo. Nella Bibbia concordata si commenta questo libro dicendo che è possibile dividerlo in 5 canti. Il primo rievoca le amarezze dell'esilio di Israele, il secondo rievoca l'emozione degli esuli per il messaggio profetico di imminente liberazione, nel terzo ci è l'esultanza per il rientro a Sion della prima carovana di reduci, nel quarto si allude alle delusioni e sconforti, infedeltà e freddezze dei figli di Sion dopo il ritorno in patria, mentre nel quinto vi è il compiacimento del Signore per il risveglio e la ripresa spirituale di Sion. L'annotazione si chiude poi affermando: l'interpretazione legittima del cantico resta quella della tradizione giudeo-cristiana, che vide in esso un'artistica e bellissima allegoria nuziale riferita a Dio e Sion, intrecciata con altre metafore già ricorrenti nella Bibbia. L'interpretazione naturalista, che vede nei due protagonisti due persone umane e reali, occupate nelle loro espansioni affettive, fu condannata nel Concilio Ecumenico Costantinopolitano II, 553 d.C., il diletto è Dio come salvatore e restauratore del popolo di Sion, re e pastore di Israele, il re pacifico e sapiente. La sposa è Sion o Israele, ora come popolo o comunità di fedeli, ora come terra palestinese, descritta nelle sue stupende bellezze naturali. Poiché queste note ai libri della Bibbia hanno lo scopo di aiutare il lettore, mi chiedo quale utilità pratiche, nell'ambito del matrimonio, possa avere questo accostamento mistico della Bibbia. È vero che il Cantico dei Cantici si esprime con allegorie, ma togliere completamente il senso letterale non è saggio. Inoltre, ogni espressione simbolica contiene in sé un senso letterale, perciò il misticismo spesso si usa per evitare imbarazzanti conclusioni. Del resto, una lettura naturalista, come quella che stiamo facendo, non dice nulla di nuovo in merito al matrimonio e alla sessualità, che non sia già stato detto da persone serie e competenti in merito alle problematiche matrimoniali. Ma è comprensibile che i cattolici interpretino il Cantico dei Cantici in modo allegorico, perché, per quanto riguarda il matrimonio, non il sesso, non possono avere nessuna nozione, essendo celibi tutti i loro insegnati. Peccato! Perché, se Dio si presenta come lo sposo del popolo di Israele, se la Chiesa è la sposa di Cristo, se in cielo la sposa si unirà con Cristo non sposandosi, i preti perdono in questa vita terrena, la relazione più profonda che esista. Non avendo questa relazione matrimoniale, come possono sacerdoti e vescovi dare consigli agli sposi? Come possono interpretare il Cantico dei Cantici in modo naturalista? Il credente saggio non imiterà il misticismo, anche perché i figli non nascono con questo metodo. Lo sposo continua a esprimere il suo amore. 6, 8 ci sono 60 regine, 80 concubine e fanciulle innumerevoli. 6, 9 ma la mia colomba, la perfetta mia, è unica, è l'unica di sua madre, la prescelta di colei che l'ha partorita. Le fanciulle la vedono e la proclamano beata, la vedono pure le regine e le concubine e la lodano. Lo sposo sta dicendo alla sposa: al mondo ci sono tante altre donne, alcune più ricche e più belle. Ma tu sei unica come donna e per questo ti ho preferita tra tutte. Un complimento non da poco, che gli sposi dovrebbero rivolgere di tanto in tanto alle loro mogli, soprattutto con il passare degli anni di vita matrimoniale. Un marito deve far comprendere alla moglie di non essersi pentito di averla sposata, come invece certi mariti fanno, invece da come si comporta con lei. Il protagonista del nostro poema suscita nelle altre donne invidia, e la sulamita è proclamata felice. Perfino le altre donne più ricche vorrebbero essere al suo posto. A volte si sente dire: fortunata quella donna ad avere quel marito. I mariti dovrebbero fare a gara perché le altre donne siano costrette a dichiarare beata la loro sposa. Che cosa è un fornitissimo harem in confronto all'unica amata? Il valore sta nella qualità, non nella quantità. Anche in questo caso, però, occorre essere molti realisti. Il libro Cantico dei Cantici esalta la celebrazione più lirica dell'amore umano, senza tenere in considerazione la realtà nella quale viviamo. Sta scritto nel libro dei Proverbi: è meglio abitare in un deserto che con una donna litigiosa e irritante. PR 21.19. Oppure, è meglio abitare sull'angolo di un tetto che in una casa condivisa con una donna litigiosa o rissosa. PR 21.9. Come deve comportarsi un marito che convive con una moglie irritante? Per prima cosa, dovrebbe chiedersi il perché di tale comportamento, dato che una moglie vicino ad un uomo irresponsabile diventa nervosa. Se invece l'irritazione della moglie deriva dal suo brutto carattere, allora, a maggior ragione si devono applicare dei principi cristiani, cioè amare tutti ma soprattutto chi non è amabile. È facile, si è detto, amare chi è amabile, fare complimenti a chi ti fa complimenti. Un matrimonio difficile dovuto a un coniuge difficile è una delle più grandi sfide che il cristiano possa affrontare. A volte si pensa di fare i missionari in terre lontane, a volte meno, come ho sentito dire da certi mariti, meno si desiderava farsi prete per stare più vicino a Dio, ma stare con una moglie difficile di propria scelta non vale forse più di tanti altri obiettivi cristiani? Del resto non siamo noi a scegliere come o dove servire Dio, e se ci siamo sposati con una certa persona non è forse il volere di Dio? Pensi forse, o uomo, che Dio non sapesse come sarebbe diventata tua moglie? Lo sapeva, ma non te lo ha detto, perché se tu ne fossi stato a conoscenza non l'avresti sposata. E questo toglie ogni presunta forma di eroismo nel servire Cristo. Le amiche della sposa implorano. 6 e 10 chi è questa che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, spaventevole come un esercito a bandiere spiegate? Questa è una forma retorica interrogativa, equivalente a «chi altra donna è come lei?». Le lodi del marito sono quindi fondate. Se vi è una gara da parte dell'uomo ad apprezzare la moglie, deve esserci pure una competizione da parte della donna che appare come l'alba, bella, pura e spaventevole. Notiamo queste qualità. Appare come l'alba, un'alba è sempre piena di speranza. Dopo una notte buia la si vede sempre volentieri. Porta con sé nuove energie ritrovate dopo un sonno ristoratore. È vero che sono anche queste immagini poetiche, ma esse vogliono dire nel vedere la sposa, egli scorge in lei l'aiuto conveniente, la vede come una colonna sostenente la struttura di una casa. In effetti una donna può costruire una famiglia, come può demolirla. È la donna a interessarsi delle faccende della vita, dell'andamento finanziario e dell'educazione dei figli. In genere, mentre il marito lavora per mantenere la famiglia, è la donna a sobbarcarsi il peso di tutto l'andamento familiare. Sarebbe però da sciocchi chiudere gli occhi davanti alla trasformazione che stanno subendo il matrimonio e la famiglia, perché, passato il vento della modernità, si tornerà a vivere come si è sempre vissuti e come si dovrebbe vivere nell'ambito familiare. Bella come la luna, la bellezza è una cosa relativa, e sarebbe ingiusto fermarsi solo alla bellezza fisica. Ci sono donne che fisicamente non mi attraggono più di tanto, ma hanno un'altra bellezza da far innamorare. E una bellezza dell'anima, del cuore, di come affrontano la vita. E una gioia e una bella soddisfazione parlare con loro. Purtroppo, c'è Cocon. È l'uomo è consumato dal desiderio sessuale, in genere non nota questo aspetto nella bellezza di queste donne, ignaro di cosa perde. Pura come il sole, la purezza è una cosa rara. Anche in questo caso non si tratta solo di fisico, ma di un animo di limpidezza, di genuinità, cose che l'esistenza umana, meno con tutti i suoi intrighi, purtroppo impedisce di far rimanere tali. Se uno vuole può riuscire a rimanere puro, però, se è disposto a pagarne il prezzo. Gesù disse di essere semplici come colombe e prudenti come serpenti. Spaventevole come un esercito a bandiere spiegate, un esercito a bandiere spiegate incute. Un certo timore. Così deve essere una moglie. Il suo comportamento è talmente fiero e deciso che chi l'avvicina prova un santo timore da allontanarsi, qualora avesse intenzioni poco buone. Purtroppo il cattolicesimo ha attribuito queste parole a Maria, la madre di Gesù, ma non vi è niente di più lontano dalla verità. Gli ultimi versetti del capitolo 6 sono stati tradotti diversamente nelle varie Bibbie. Evidentemente, il testo si presta a più interpretazioni. Dopo vari apprezzamenti morali, ora il marito apprezza il fisico della moglie. 7. 1. Come sono belli i tuoi piedi nei calzari, o figlia di principe. Le curve dei tuoi fianchi sono come gioielli, opera di mano d'artista. 7. 2. Il tuo ombelico è una coppa rotonda, ove non manca mai vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano, circondato di gigli. 7. 3. Le tue due mammelle sono come due cerbiatti, gemelli di gazzella. 7. 4. Il tuo collo è come una torre d'avorio. I tuoi occhi sono come le piscine di Eshbon presso la porta di Bat-Rabbim. Il tuo naso è come la torre del Libano, che guarda verso Damasco. 7. 5. Il tuo capo si eleva su di te come il Carmel, e i capelli del tuo capo sono porpora. Un re è fatto prigioniero dalle tue trecce. Lo sposo vuole possedere fisicamente la sposa, la quale è contenta che il desiderio dello sposo vada verso di lei e non verso altre. Quando una sposa ha questo sentimento, rimane una sposa felice. Vi sono mogli che vietano al marito l'accesso al proprio corpo in modo totale o parziale, dimenticando quanto afferma Paolo in merito al matrimonio: la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. 1 Cor 7:4. Così, quando una moglie offre il suo corpo per appagare sessualmente il marito, non ha fatto nulla di straordinario ed eroico, come invece sembra ad alcune spose. Da notare che lo sposo fissa lo sguardo subito, oltre che verso i piedi, anche sui fianchi della sposa. Se posso erigermi paladino della maschilità degli uomini, potrei dire che, in genere, sono tre gli elementi femminili che possono lanciare un richiamo alla diversità sessuale: i fianchi, il seno e i capelli. È vero che i capelli delle donne possono essere tagliati al maschile, ma questo non fa altro che avvalorare il fatto che dovrebbero esserci un taglio maschile e uno femminile. E, fuor di dubbio, che le sensazioni fisiche piacevoli siano diverse da individuo a individuo, per cui a uno piace essere immerso nell'acqua e a un altro no, oppure ad uno piace essere accarezzato dal vento anche forte, mentre ad altri dà fastidio. Ma l'accarezzare i capelli di chi si ama è una sensazione non legata strettamente all'atto sessuale. Assieme al bacio di riconoscenza, di affetto e alle carezze, può rientrare fra le cose capaci di durare fino alla morte, se riusciamo a vedere il corpo del nostro coniuge non solo come uno strumento di piacere sessuale, ma a scorgervi la persona intera che si ama. Allora ogni gesto o apprezzamento teso a esprimere il nostro affetto è valido. Diversamente, apprezzare e valorizzare i piedi della sulamita, come ha fatto lo sposo, non avrebbe senso. Infatti, tra gli sposi possono esserci cose piacevoli, che non lo sono per altri. A me, per esempio, non piaceva il naso di una certa donna, ma suo marito lo considerava l'aspetto più bello in lei. Come siamo diversi! L'apprezzamento del marito rivolto anche all'ombelico della sposa può far pensare che fosse in mostra. Si sa che le donne orientali usano intrattenere gli uomini con la danza del ventre, dove, ovviamente, l'ombelico è in bella mostra, ma certamente tale costume non è relazionabile a una comune moglie. Perciò lo sposo si riferisce a piaceri dentro le mura domestiche, da lui paragonati ad un vino aromatico. Il ventre della sposa, che alcuni traducono con vulva, è simile ad un mucchio di grano che ha come cornice dei gigli come fiori. Il grano rappresenta l'alimento base per la sopravvivenza e i gigli appartengono ai fiori più belli, che saranno poi citati anche da Gesù. Perciò, il paragone significa che il ventre della moglie è un bene fondamentale per la sopravvivenza della razza umana e uno dei piaceri più belli. I paragoni degli orientali in merito alle mogli sono molto umani e reali, non come quelli espressi da chi è in preda alla concupiscenza. Poi, lo sposo si riferisce alle mammelle della sposa, vedendoli come cerbiatti, cioè sempre vivi e saltellanti. In effetti, dalle mammelle esce la vita per nutrire la razza umana, e sono sempre in movimento. Il collo è paragonato ad una struttura solida, cioè la torre. Gli occhi sono paragonati a due stupende costruzioni umane, due piscine. Il naso è paragonato ad una torre. La testa, alla sommità del corpo, è paragonata ad una montagna, il Monte Carmel, mentre i capelli intrecciati sono paragonati alla delicatezza del tessuto della porpora. La descrizione della sulamita, espressa dal coniuge in questo capitolo, è molto simile a quella del capitolo 4, 1 a 6, anche se un po' più sensuale e di ordine inverso, dal basso verso l'alto. Pura casualità, può anche darsi, ma vi è però un insegnamento che dobbiamo cogliere. In genere è la faccia ad attrarre l'attenzione di una persona, perché è il viso che permette di distinguere un essere umano dagli altri. Infatti, tutti abbiamo due piedi, due gambe, due braccia e una testa. Ma ad affascinare di più o di meno è il viso con la sua espressione. Quando un uomo inizia a guardare una donna dalle gambe, risalendo poi per i fianchi, al seno e infine al volto, ha iniziato a guardare con il piede sbagliato. Non a caso, quando Gesù parlò in merito all'adulterio, si riferì solo all'uomo e non alla donna. Eppure ambedue guardano gli altri, con una differenza. La donna guarda l'uomo in faccia e difficilmente parte dalle gambe, mentre chi ha un animo concupiscente può ricordare benissimo il fisico di una donna, ma averne dimenticato il volto. Uno smoderato desiderio sessuale non nasce dal nulla, esso viene alimentato da un modo scorretto di guardare. Gesù disse: «La lampada del corpo è l'occhio, se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato». Matt. 6:22. E ha ragione. Controllare lo sguardo vuol dire controllare tutto il corpo. Dopo aver guardato a pieno diritto il fisico della sposa, ora lo sposo la desidera. 7. Quanto sei bella, quanto sei piacevole, o amore mio, con tutte le tue delizie. 7. La tua statura è simile alla palma, e le tue mammelle a grappoli. 7. Ho detto, salirò sulla palma e afferrerò i suoi rami. Siano le tue mammelle come i grappoli. 7. E i baci della tua bocca come un vino squisito, che scende dolcemente per il mio diletto. Molto probabilmente, questa parte del poema contiene l'espressione più forte del desiderio sessuale dell'uomo, e sarà anche oggetto della nostra particolare meditazione. Si potrebbero dire tante cose, ma ci sono innumerevoli libri, anche scritti da cristiani, che commentano abbondantemente la liceità della sessualità, il ruolo che essa svolge nell'ambito di una coppia e a volte anche come esercitarla. Tutto questo, ovviamente, nel contesto di un matrimonio legale. Da notare che in questa descrizione lo sposo inizia col dire che essa è bella, piacevole e piena di delizie. Essere in grado di leggere questi complimenti evitando di relegarli unicamente all'atto sessuale è determinante, perché se è vero che l'organo sessuale più importante è il nostro cervello, allora anche la sessualità dipende da esso, ne consegue quindi che a dover essere istruito e educato sia proprio il nostro modo di comprendere la sessualità. Quando si entra nel periodo della pubertà, l'istinto naturale e la pulsione della sessualità ci appaiono come forze misteriose e completamente sconosciute, anche se già ne abbiamo sentito parlare o se ne abbiamo visto scene in certi filmati o per strada da giovani innamorati. Ma ora questa potenzialità permanente urla prepotentemente nel nostro corpo, vuole il suo appagamento e, come se ciò non bastasse, è contornata da un sobillante e penetrante romanticismo. In quel periodo la razza umana non dispone di una regolamentazione naturale per incanalare l'istinto sessuale. La sessualità non è dominata dal nostro intelletto e se non fossimo condizionati per forza dalla cultura e dalla società, eserciteremmo liberamente la nostra sessualità in modo anomalo, anche perché a quell'età non abbiamo ancora interiorizzato meno a livello pratico meno cosa sia lecito o no. Una cosa è che la mamma ti spieghi che è pericoloso andare forte in bicicletta. Altra è capirlo quando cadi e ti sbucci le ginocchia. Poi col tempo comprendiamo, come è stato ben detto, che l'edificio della civiltà si fonda sul principio della rinuncia alle pulsioni istintive, perché la sessualità umana è anche immediatamente sociale. Così, la soddisfazione degli scopi biologici e dei bisogni istintivi del piacere producono il sanissimo contrasto tra repressione ed espressione. Prima di arrivare ad una sessualità libera, adulta e creatrice. Dopo questo periodo burrascoso dell'istinto sessuale ci si innamora, e anche in quel momento il romanticismo e l'implacabile pulsione sessuale sono molto forti, e solo con la presa di coscienza di vivere in una società regolata da leggi, rimandiamo spontaneamente l'espressione del desiderio sessuale al momento socialmente opportuno. Con il matrimonio inizia la tanto desiderata attività sessuale, ma tutti, proprio tutti, arriviamo nel letto coniugale, quando è coniugale, con dei grossi limiti psicologici che impediscono, a differenza di quanto accade agli animali. Perché? Perché non sono tanto i due corpi ad unirsi, quanto soprattutto due entità spirituali, due esseri che, mediante l'incontro sessuale, cercano o dovrebbero cercare di completarsi. Perché? Se è vero che alla creazione Adamo era incompleto sessualmente e lo era anche spiritualmente. Infatti, quando Cristo creò Adamo ed Eva, li fece ad immagine del Dio Trino, cioè maschio e femmina, perché nella natura del Dio Trino vi è sia la maschilità sia la femminilità. Diversamente, sia il maschio sia la femmina non sarebbero stati fatti ad immagine di Dio. Per questo, quando nel capitolo 5 della Genesi è specificato di nuovo che Dio creò l'uomo e lo fece a somiglianza di Dio, li fece maschio e femmina, diede loro il nome di uomo. Dunque, se vogliono comprendere nella sua totalità il Dio Trino, l'uomo e la donna devono uscire dalla loro individualità psicologica e sessuale per capire l'altro. La donna non è solo un aiuto conveniente all'uomo nell'ambito sessuale, ma soprattutto lo è in quello spirituale, perché si può vivere anche senza aver avuto relazioni sessuali, mentre è impossibile vivere e comprendere il Dio Trino senza l'aiuto dell'altro sesso, perché Dio è padre e madre per tutti. Ecco perché nell'esprimere il suo desiderio sessuale, lo sposo definisce la sulamita bella e piacevole. Sono consapevole che per fare sesso la maggior parte degli uomini non ha bisogno di premesse romantiche e di vero amore, ma una simile attività è molto più vicina a quella animalesca, che a quella creata originalmente da Dio. Adamo ed Eva avevano ricevuto l'ordine di procreare e questo per loro non era un problema, ma quando peccarono trovarono di essersi divisi, non solo da Dio, ma anche tra di loro. A subirne le conseguenze non furono solo i rapporti sociali, ma anche la sessualità. È per questo che la normale conclusione tra un uomo e una donna legati da una profonda relazione spirituale conduce nella camera da letto, non intesa come sfogo della propria lussuria, ma come completamento fisico di ciò che si prova spiritualmente. Perciò, piuttosto di cercare un'intesa sessuale con i metodi diversi messi a disposizione nel mondo, gli sposi dovrebbero preoccuparsi della loro intesa morale e spirituale, perché se l'organo sessuale più importante è il cervello, cioè ciò che si pensa, quando vi è il vero e sincero affetto, quando il desiderio del fisico dell'altro è visto come un dono per completare il mio, allora, come è stato detto, il sesso diventa una forma di preghiera fisica, una raffigurazione di intimità celestiale che riflette la gloria di Dio, Gary Thomas. E dopo aver lodato le qualità spirituali della sulamita, la sua bellezza, la sua piacevolezza e aver trovato in lei piacere, lo sposo desidera il contatto fisico, desidera fare sesso. Rimarchiamo un attimo l'intesa spirituale. Non bisogna sottovalutare la forte pulsione sessuale dell'uomo, per cui non ha bisogno di tanti incoraggiamenti per esprimersi. Ma se l'uomo fosse in grado di considerare il suo sesso non solo come un dono datogli da Dio per soddisfare se stesso, come del resto il cibo e ogni altro piacere fisico, ma come un mezzo per soddisfare il desiderio della donna, molte coppie avrebbero più armonia. Diciamolo subito, quando asseriamo che il sesso dell'uomo deve essere, intendiamo considerato come un mezzo per soddisfare necessariamente solo una soddisfazione corporea, come l'orgasmo, ma anche quella psicologica. Cosa significa questo discorso? Esaminiamo la natura. Nell'atto sessuale l'uomo, per ragioni fisiologiche, deve arrivare all'amplesso, mentre per la donna non è necessariamente così. Già questo ci dice che per un principio divino la donna non deve per forza provare piacere fisico. Tanto è vero che molte donne non hanno mai provato l'orgasmo sessuale, però vi è nella psiche della donna un bisogno molto forte, simile a quello fisico, se non ancora più forte, quello di sentirsi amata e di conseguenza cercata. Cercata. In fondo è questo il grande bisogno di ogni donna e la sua maggior soddisfazione nell'atto sessuale sta proprio nell'essere cercata dal marito, perché così si sente amata e desiderata. Nei primi rapporti sessuali la donna accetta le iniziative dell'uomo in questo modo. Poi, come se si svegliasse da uno strano sonno romantico, arriva a concludere che l'atto sessuale del desiderio della donna, non marito, sia puramente egoistico. Anche se è vero che a volte è così, per l'uomo l'atto sessuale fa parte della sua componente affettiva, mentre l'atto d'amore di una donna il più delle volte si trova nella sua disponibilità di accogliere il desiderio del marito, quando in realtà non ne avrebbe nessuna voglia o intenzione. Così nasce un'intesa spirituale e sessuale. La donna si concede per fare piacere al marito, e questo è amore. Il marito cerca il suo corpo non per impadronirsene, ma nel modo a lei piacevole, per riconoscerne le necessità, e questo è altresì amore. E dall'intesa spirituale che nasce una intesa corporale, non viceversa. Tanto è vero che certe coppie hanno un'intesa fisica raffinata, ma nel campo spirituale non si può dire lo stesso. Anche se è vero che, in genere, l'armonia nella camera da letto rispecchia l'intesa della coppia. Il marito esprime chiaramente le sue intenzioni sessuali. 7. La tua statura è simile alla palma e le tue mammelle a grappoli. 7. 8. Ho detto, salirò sulla palma e afferrerò i suoi rami, siano le tue mammelle come i grappoli. Il marito ravvisa la sulamita in una palma sulla quale desidera salire o, come dice il libro di Giobbe, piegarsi su di lei. È vero che al giorno d'oggi, meno forse influenzati da filosofie orientali, meno vi sono molti libri che forniscono indicazioni sulle varietà delle posizioni sessuali, ma quella tradizionale rimarrà sempre la più spontanea, naturale e meno problematica di tutte altre. In genere, per rigenerare un rapporto che va incrinandosi o è già morto, si cercano novità, ma certamente non vi è niente di più bello di due corpi completamente aderenti che si muovono in armonia per la soddisfazione dell'altro. E anche quando si è raggiunto questo obiettivo, il contatto fisico, prolungato nella quiete dei sensi, può continuare a comunicare affetto e tenerezza. In questo contatto, lo sposo parla anche di seni o mammelle della sposa, che considera come dei grappoli d'uva. Anche questo aspetto ha il suo valore. Per una donna, avere due seni è una cosa normale, perché li porta fin dalla pubertà e sa che servono per la creatura che porterà in grembo. Ma per l'uomo, sono anche di più. Prima di tutto, sono un segno della sua femminilità, poi sono strumenti per avvertire esternamente questa femminilità. È vero che i seni femminili, soprattutto quelli giovanili, possono essere oggetto di lussuria, come disse Ezechiele per ben tre volte in una sua profezia, rivolta a Gerusalemme che è paragonata ad una ragazza, Ezechiele 23, 3:8-21, ma sono anche parte del corpo di colei che si ama, e se non vi è parte nascosta del corpo della sposa che non piaccia allo sposo, allora anche i seni hanno la loro importanza. Non a caso Dio, in merito alla sposa, ordina al marito: «Cerva amabile, gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo, e sii continuamente rapito nell'affetto suo». 5:19. Affetto e mammelle, due componenti che devono andare di pari passo in ogni tempo, perché affetto e seni hanno il loro valore anche nella vecchiaia. Una donna potrebbe anche vergognarsi di portare certi seni nella vecchiaia, ma quando il marito sa che appartengono alla sua sposa amata, niente è spregevole, anche perché lui stesso potrebbe vergognarsi di ciò che non è più funzionale in lui. L'amore apprezza ciò che la concupiscenza non valorizza. Lo sposo parla anche di alito, una componente altrettanto molto importante nel matrimonio. Avere un alito con la fragranza di mele significa avere un corpo sano e una buona digestione, e anche questo dovrebbe attirare l'attenzione di certi sposi, che pensano solo a se stessi. È vero che uno può mangiare quello che vuole meno, proprio questo è la causa di tante indisposizioni fisiche meno, ma se anche uno non si cura di se stesso perché vuole trascurare la sua salute, almeno pensi al suo coniuge. Si mantenga sano, almeno per lui. Questo è il vero matrimonio. Non è un rapporto dove vuoi e puoi egoisticamente soddisfare al massimo ogni tua necessità e desiderio, ma è un legame nel quale ti sei impegnato a far felice l'altro, a non farlo soffrire ingiustamente. Perciò non è solo nella sessualità che bisogna pensare all'altro, ma in tutti i settori della vita. Il matrimonio, bisogna ricordarlo, è stato istituito da Dio, non tanto per farci felici, ma perché tramite esso impariamo cosa significa in concreto amare l'altro, servire il prossimo e dare la precedenza ai bisogni di chi ci sta attorno. Altro che sposarsi per essere felici. Sì, la felicità ci è, ma solo quando si è annullato completamente il proprio egoismo. Quando l'Apostolo Paolo scrisse agli uomini di amare le proprie mogli, come Cristo ha amato la Chiesa, in favore della quale egli ha dato se stesso allo scopo di santificarla, ha messo in evidenza un esempio da imitarsi. Se lo scopo di un coniuge è quello di aiutare il suo partner ad avere una vita sempre più ubbidiente alla volontà di Dio, cercherà di togliere ogni ostacolo che impedisca di raggiungere questo obiettivo. Se il mio alito, e con esso ogni altra cosa, è sgradevole per il mio coniuge, è ovvio che farò tutto il possibile perché diventi gradevole. Così, se il mio parlare disturba il mio coniuge, cambierò modo di parlare. Se un certo comportamento infastidisce il mio coniuge, non lo farò più. Il mio parlare e il mio comportamento potrebbero anche risultarmi giusti, potrei anche non vederci nulla di male, ma quello che importa meno soprattutto in una relazione matrimoniale meno, non è la mia convinzione di ciò che sia giusto, ma quello che riceve la mia compagna o compagno. Se il mio obiettivo nel matrimonio è quello di rendere felice la persona, che dopo Cristo ovviamente è la più importante della mia vita, allora ogni sforzo sarà teso a raggiungere questo difficilissimo obiettivo. In definitiva, la vita coniugale è un cammino condiviso da due esseri con le loro reciproche asperità di carattere, ma disposti a migliorare, se non eliminare del tutto, tali imperfezioni per amore dell'altro. Dirò di più, anche se non è veramente aspro il mio modo di parlare o comportarmi, se questo dà però fastidio al mio coniuge, sarò disposto a smettere, pur di mantenere l'armonia coniugale. Se messo in pratica, non per un tornaconto, se ne riceveranno i risultati. Nel parlare della sessualità, lo sposo si riferisce anche ai baci. 7. 8. Siano le tue mammelle come i grappoli della vite, la fragranza del tuo alito come quello dei pomi. 7. 9. E i baci della tua bocca come un vino squisito, che scende dolcemente per il mio diletto. Il bacio. Poiché si parla poco del bacio, e poiché vi sono opinioni differenti in merito, ritengo opportuno ripetere alcune verità già espresse altrove. Prima di considerare ciò che afferma la parola di Dio sul bacio, desidero riportare quanto troviamo scritto nell'Enciclopedia Italiana Treccani, alla voce bacio. Il bacio, che è uno dei segni più notevoli con cui si manifestano l'amore, l'affetto e la devozione, prende differenti forme tra i popoli della terra, a seconda del sentimento che vuol significare e dell'impulso che lo determina. Infatti, tra i popoli dell'Asia sud-orientale, della Malesia, buona parte degli australiani e dei papuani, alcuni gruppi americani, il bacio fra persone care consiste nello strofinare il proprio naso contro quello della persona alla quale si vuol fare accoglienza. Cinesi e lapponi strofinano, insieme con il naso, anche le labbra sulla faccia delle persone amica, quasi aspirandone l'odore. Per contrapposto al bacio nasale o olfattivo, diciamo labiale, quello rappresentato dall'avvicinarsi e schiudere le labbra sulla bocca dell'amico, questa forma predomina i popoli semiti e indoeuropei. I romani chiamavano osculum il bacio impresso sulla faccia, e questo aveva luogo tra fratelli, basium, quello dato sulla bocca in segno di affetto, e savium, l'altro accoccato fra le labbra, con carattere erotico. Dunque, non vi è nulla più di comune del bacio. Dal bacio, dato diversamente in segno di venerazione, di rispetto o di adorazione, molto probabilmente, nacque il bacio cristiano, espressione del sentimento reciproco di fratellanza, nella comune dipendenza da Gesù Cristo. La formula «salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio» ricorre 4 volte nelle lettere di Paolo, 2 Corinzi, 13 e 12, Romani 16 e 16, 1 Corinzi 16 e 20, 1 Timoteo 5 e 26 e, una volta, in Pietro, 1 Pietro 5 e 14, il «salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore». Un bacio può trasformare una vita. Gli studiosi di psicoanalisi hanno constatato che i bambini più irrequieti e delinquenti spesso non hanno ricevuto attenzioni affettive adeguate, fra queste il bacio. Eppure costa così poco. Il bacio non richiede grandi spese di energie o di denaro, non ha bisogno di istruzione, non dipende da qualche oggetto e, per questo, può essere donato in ogni momento. Tutti abbiamo bisogno di questo contatto fisico. Forse possiamo fare a meno del contatto fisico più profondo come quello sessuale, perché esso deve essere espresso nel contesto del matrimonio, ma Dio ci ha creati in modo che possiamo toccarci l'un l'altro spesso e nel modo giusto, con un bacio affettuoso. Inoltre, mentre l'istinto della sessualità è destinato a scomparire, il bacio resta una manifestazione di affetto che può essere espresso sempre. Nonostante il bacio costituisca una delle espressioni di affetto più comune, alcune spose nauseate dalla sessualità arrivano a rigettare anche il bacio di affetto. Ero presente ad un episodio molto significativo. Una nipotina di 6 anni era andata dai nonni perché aveva la febbre. Desiderava giocare con il nonno a carte, imponendo la regola che chi perdeva doveva fare penitenza. Vinse il nonno, il quale, come penitenza fittizia, tanto per non farne scontare una vera alla nipote, ordinò di dare un bacio alla nonna. Decisa, la nipotina parte e va dalla nonna, che era in cucina, per darle un bacio. La nonna chiese il motivo e, venutene a conoscenza, le disse che un bacio non è una penitenza. Poi, come riprendendosi, andò dal nonno, aggiungendo: «I baci dei bambini non sono una penitenza. Che sia chiaro, quello dei bambini». Ma la nipotina, colta la precisazione, nella sua ingenuità ribatté: «Ma la mia mamma e il mio papà si danno dei bacini anche durante la giornata». «Il tuo papà e la tua mamma fanno venire il latte alle ginocchia», rispose la nonna, «perché i baci...» «E», a questo punto alzò la voce per rimarcare ciò che stava dicendo, «si danno solo quando si parte e si arriva dal treno». «Basta, ecco cosa può provocare in una moglie arrivare ad essere nauseata del rapporto sessuale. Ma per l'amato della suramita, i baci della sposa sono come vino squisito, che scende dolcemente dalla bocca, sfiorando delicatamente le labbra di chi dorme». Che bellissima espressione poetica e reale. Poetica perché rende l'idea che il bacio sia qualcosa di squisito che accarezza le labbra di chi si è assopito moralmente e fisicamente. Un bacio affettuoso è in grado di produrre buoni sentimenti in chi lo riceve, soprattutto quando fra due coniugi nasce una forte discussione, che lascia gli animi inaspriti e, il bacio, dimostra che il confronto animato non era motivato da un'insofferenza verso la persona, ma dalla discordia relativa a un certo argomento. Nella pratica, il bacio nell'ambito sessuale rimane fluente e squisito come il vino, producendo un'unica abbondante salivazione. Quando si diventa un corpo solo nell'atto sessuale vuol dire anche questo. Ciò spiega anche perché l'omosessualità è proibita da Dio. Il corpo di un uomo e una donna sono stati fatti apposta per congiungersi e miscelarsi fisicamente con i loro microorganismi, mentre due sessi uguali non hanno questa possibilità. In effetti, molte malattie venere o anche virali come l'AIDS provengono proprio da un rapporto sessuale sbagliato nei quali i microorganismi non si accolgono. Del resto, già il Dio della Bibbia, che ha fatto l'uomo e la donna, ordinò: «Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna». E cosa? Grandemente ripugnante. Levitico 18 e 22. Se non ci sono serie malattie, ovviamente in una coppia, ogni espressione di affetto espressa con la bocca può essere accolta come vino squisito. La sulamita, a sua volta, non riesce a tacere riguardo al suo appagamento. 7 e 10. Io sono del mio diletto e il suo desiderio è verso di me. Se lo sposo ha espresso il desiderio di possedere fisicamente la sposa, questa è contenta che il desiderio dello sposo sia diretto a lei. Anche questa reciproca espressione d'amore deve essere compresa alla luce della cultura ebraica. E, risaputo che tra gli ebrei era ed è ancora in uso la poligamia. In una cultura monogama come quella occidentale, la poligamia è ritenuta un peccato. Senza prendere posizione tra una opinione o l'altra, una cosa è certa. Molti grandi uomini di Dio erano poligami e, nonostante la Bibbia condanni decine e decine di peccati, non è mai scritto che la poligamia sia tale. Questo aspetto sociale rende ancora più preziosa la conversazione tra la sulamita e il suo amato. È vero che il suo sposo poteva avere anche altre donne, ma il suo rapporto personale, la sua intimità sessuale, la certezza di essere desiderata rendeva la sulamita più che soddisfatta. E del resto così deve essere. Ora, il ragionamento si fa molto difficile e impegnativo, ma ha comunque un proprio valore. Con la nascita di Gesù e l'avvento del cristianesimo, dalla poligamia si è passati ad una immutabile monogamia. Cosa più che giusta. Perché il matrimonio terreno deve riflettere quello celeste, cioè il rapporto tra Cristo e la sua Chiesa, ma il rapporto che esiste tra uno sposo e una sposa di oggi è lo stesso che esisteva prima della nascita di Cristo, anche se, a quel tempo, l'uomo poteva avere più mogli. Il matrimonio, se lo si può capire in fondo, è una relazione tra due persone e niente più. Se poi una moglie nelle epoche precedenti Cristo doveva condividere la sessualità di suo marito con un'altra donna, poteva essere sì sgradevole ma non più di tanto, perché alla fin fine a valere era il suo rapporto personale con il marito. E di questo rapporto intimo personale che gode la sulamita, facciamo un ragionamento ancora più impegnativo. Quando una donna si sposava, soprattutto se era vedova e facoltosa come Abigail, poteva portare con sé delle giovani serve. Abigail ne prese 4. Quindi l'uomo si trovava a dover sfamare non soltanto la moglie, ma anche le altre donne al suo servizio. Davide poi sposò anche altre donne che dovettero coabitare con le altre compagne. In definitiva, una moglie, al tempo dei patriarchi, non era come quella di oggi in Occidente, la quale deve fare tutto, ma proprio tutto, arrivando alla fine della giornata più che sfinita. È normale quindi che tra la casa e il lavoro, i bambini e altri impegni, alla sera, arrivi a non essere disponibile per delle effusioni amorose. Questo problema non esisteva in un matrimonio poligamo, senza incoraggiare la poligamia ovviamente, ma prendendo l'aspetto positivo di questa cosa, se le mogli occidentali fossero meno possessive e meno insicure, se lo Stato creasse una legge nella quale si permettesse di avere in casa una donna senza retribuirla, darle in cambio cibo e alloggio per tutti i lavori che svolge, accudendo anche i bambini, una moglie sarebbe sollevata grandemente da tanti pesi. Con la crisi economica attuale si risolverebbe un grande problema sociale e gli sposi avrebbero una vita matrimoniale molto più tranquilla e umana. Chissà che un giorno non diventi così anche in Occidente. La sulamita continua ad esprimere il desiderio di incontrare il suo amato. 7:11. Vieni, mio diletto, usciamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi. 7:12. Alziamoci presto al mattino per andare nelle vigne per vedere se la vite ha messo i germogli e i suoi fiori sono sbocciati e se i melograni sono in fiore. Là ti darò il mio amore. 7:13. Le mandragole effondono la loro fragranza e sulle nostre porte ci sono frutti squisiti di ogni genere, freschi e appassiti, che ho conservato per te, mio diletto. Il linguaggio della sulamita continua ad essere pittoresco secondo la sua cultura e, anche in questo caso, si colgono delle importanti verità. Il suo desiderio è andare in mezzo alla natura con il suo amato, vedere le vigne, i melograni, i fiori sbocciati, sentire l'odore delle mandragole, che gli israeliti ritenevano eroticamente eccitanti e portatrici di fecondità, Ge 30:14-16, e là offrirgli il suo amore. Apparentemente nulla di particolare, la sulamita pensa di esprimere il suo amore circondata dalla natura, perché anche la relazione amorosa fa parte di ciò che è naturale. Sono gli uomini ad aver reso il sesso uno strumento di mercato, sono gli uomini ad averne fatto l'oggetto della propria concupiscenza, perché i più deboli fra loro ne siano vittime. Sono sempre i maschi, non contenti di ciò che è naturale, e avendo superato ogni limite, coloro i quali gli occhi escono fuori per il grasso e traboccano i perversi pensieri del loro cuore. Salmo 73.7. Ma la sessualità, se si vuole viverla nel massimo della soddisfazione, non ha bisogno di immaginazioni perverse o fuori dal contesto umano, e per questo la sulamita desidera esprimere il suo erotismo contornata dalla natura dei campi, con il buio naturale della notte, e per soffitto, come dirà altrove, il cielo. Niente più sensuale che avere per letto la terra, sentire l'odore dell'erba, annusare il profumo dei fiori, avvertire gli uccelli che cantano, cavallette che saltano, formiche che ti infastidiscono. Tutto è naturale, tutto è sessuato, le piante, i fiori, gli animali. E la nostra civiltà, ad averci allontanati dalla natura, per questo non conosciamo più il fastidio delle mosche, non abbiamo formiche e grilli in casa. I ragni, poi, sono immediatamente eliminati. Non sopportiamo più gli animali, se non un gatto, un cane, un topo, per farci compagnia, i quali sono poi costretti a vivere come noi. A proposito, è una cosa che mi fa effetto, la nostra civiltà ci ha costretti a passeggiare con il nostro cane e raccoglierne gli escrementi. Gesti pazzeschi, impensabili solo poche decine di anni fa. Non solo non sopportiamo più gli animali, ma anche la natura, con i suoi temporali e giornate nelle quali il sole splenda troppo a lungo. Siamo diventati intolleranti. Così, anche nell'intimità delle quattro mura che racchiudono la camera da letto, abbiamo i nostri schemi formati dalla civiltà. Necessitiamo di abbigliamenti erotici per suscitare una sforzata voglia sessuale, mentre parole di affetto, una conversazione intima, carezze dettate dalla gioia di scoprire e riscoprire frutti deliziosi di ogni specie, nuovi e vecchi, sarebbero più che sufficienti. Molti studiosi sono preoccupati perché nei giovani governa l'impotenza sessuale, ma non sanno che questo è il risultato di una opulenza, anche sessuale, creata dal progresso della nostra civiltà. Occorre tornare al naturale, quando il maschio conquista la femmina e la femmina è contenta di essere conquistata. Una cosa conquistata è sempre apprezzata. La sulamita continua ad esprimere i suoi sentimenti. 8. 1. Oh, perché non sei tu come un mio fratello, allattato dal seno di mia madre? Trovandoti fuori, ti bacerei e nessuno mi disprezzerebbe. 8. 2. Ti condurrei, ti introdurrei in casa di mia madre. Tu mi istruiresti e io ti darei da bere vino aromatico, succo del mio melagrano. 8. 3. La sua sinistra sia sotto il mio capo e la sua destra mi abbracci. 8. 4 figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro, non svegliate l'amor mio finché lei non lo desideri. La sposa rivela il tipo d'amore che nutre verso lo sposo, non solo amore sensuale, ma anche fraterno. Lei ama tanto lo sposo, che vorrebbe poterlo baciare continuamente. Il bacio al quale si riferisce la sposa è quello sulla guancia. Diversamente, una donna non era libera di esprimere pubblicamente il suo affetto al marito. Fra i beduini, solo il fratello della stessa madre e il figlio del fratello del padre avevano il diritto di baciare una ragazza. Giacobbe baciò Rachele, ovviamente, sulla guancia, perché era la figlia del fratello di sua madre, Geo 29:10-11. Non a caso, in un solo versetto, è ripetuta tre volte il tipo di parentela che li legava. Anche questo aspetto culturale ebraico è molto utile per la nostra cultura e civiltà. Non possiamo nascondere che uno dei grossi problemi in una relazione è proprio il fidanzamento. Ci si chiede quando due possono dichiararsi fidanzati, come si devono comportare, se possono baciarsi, se possono toccarsi in modo intimo, quanto deve durare il fidanzamento. Ovviamente questi interrogativi non esistevano fra gli ebrei, perché i fidanzati si vedevano sì e no una volta sola e, poi, il giorno del loro matrimonio. In questo modo, gli ebrei, che erano molto pratici e realisti, evitavano ogni problematica in campo sessuale. Al giorno d'oggi, potrebbe essere difficile sapere quando due giovani sono fidanzati, perché hanno la possibilità di frequentarsi come e quando vogliono, perciò un'ottima regola è quella di ritenersi fidanzati solo quando si è decisa la data del matrimonio. Solo in quel momento, e non prima, è lecita qualche espressione di intimità come il bacio sulle labbra, avendo però la saggezza di non toccarsi in modo intimo. Sono conscio che per i giovani d'oggi sembrino regole molto dure, forse ancora peggiori di quelle sopracitate, che regolavano il fidanzamento tra ebrei. Ma, come disse Gesù, a chi più è dato più è richiesto. Così, se oggi tra i giovani vi è moltissima libertà, è anche richiesto loro di esercitare molto controllo sentimentale e fisico. Con uno scopo, però. Il fidanzamento, nel mondo occidentale, è certamente un banco di prova per il matrimonio. Infatti, coloro che sanno controllarsi, che sanno relazionarsi nel modo giusto, hanno ottenuto la patente per vivere un matrimonio con successo. Poiché il matrimonio è cosparso abbondantemente di rinunce, una rinuncia, attuata durante il fidanzamento a esprimere ciò che si vorrebbe fare di non lecito o anche di lecito, rende preparati alle varie e frequenti privazioni esistenti in un matrimonio. Queste parole possono essere espresse da chiunque ama. 8. Sei mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il soggiorno dei morti. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente. 8. 7. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. E la prima volta che, in questo poema dedicato all'amore, sia definito Kos è l'amore. Questo è certamente uno dei brani più significativi del libro e non solo di questo. La sposa descrive l'amore con termini forti e bellissimi, ne riferisce la forza invincibile, il suo carattere ineluttabile, il suo valore senza pari. La Sulamita chiede di essere per lo sposo come un sigillo. Il sigillo era un sostituto della persona e segno della sua autorità. Si portava appeso al collo, G38 18-25, adagiato sul petto e quindi sul cuore, o infilato in un dito sulla mano, G41 42, GR22 34. La sposa chiede quindi di essere sempre presente per lo sposo. Questo è certamente il sentimento segreto di ogni donna. La ragione per cui la sposa chiede questo è molto semplice. Perché l'amore, come la morte, non abbandona l'oggetto che ama. Il vero amore è composto anche di gelosia, perché non si può amare senza avere anche in parte il desiderio di possedere chi si ama. Del resto, Dio stesso si è presentato come il geloso. S25, 34, 14, 5, 9, GS, mezzanotte e 19, Naum, 1, 2. L'amore ha i suoi ardori. Il vero amore non è sdolcinato, apatico, passivo, ma è vivo e stimolante. Noi siamo abituati a pensare all'amore nei termini di sesso, ma esiste in questo sentimento anche una irruenza e potenza non sessuale. Scrive Lewis, quando affermiamo che Dio ama, dobbiamo stare attenti a che cosa immaginiamo. La passione d'amore è qualcosa che ci capita come ad un corpo capita di bagnarsi. Dio non può essere colpito dall'amore perché è amore. Immaginare quindi l'amore di Dio come qualcosa di meno torrenziale o di meno forte delle nostre passioni temporanee è una delle fantasie più disastrose che si possano avere. Comprendiamo quindi come la vita terrena, sia materiale sia immateriale, non è altro che un riflesso, e per di più corrotto, di ciò che Dio è. Il vero amore non si può spegnere, perché se si spegne, dimostra di essere messo in pratica da persone che non sanno amare. Esso è accettazione incondizionata, perdono assoluto, impegno eterno, attenzione e interessamento, educazione, altruismo. Il vero amore non si comporta in modo indecoroso, non cerca il proprio interesse, non è irritabile né permaloso, non tiene rancori, non si rallegra dell'ingiustizia. Il vero amore trionferà sempre. Quando una persona afferma di avere amato, ma di non amare più ora, molto probabilmente non era amore. Sono arrivato alla conclusione che nella vita cristiana, per arrivare a purificare il nostro amore dagli interessi e dall'egoismo, occorra molta, ma molta strada in salita. Qualcuno ha detto, forse lui ti ha sposato perché ti desiderava per sé. Tu lo hai sposato perché lo desideravi per te, e i vostri egoismi si sono incontrati per un attimo, dandovi l'illusione dell'amore. L'illusione dell'amore è frequente nella vita dei cristiani, per cui solo la sofferenza e le prove ne dimostrano la genuinità. L'amore vero e puro è il più grande bene che si possa godere, perciò se qualcuno lo volesse stimare a peso d'oro non meriterebbe che disprezzo. Prima di terminare le nostre riflessioni in merito al bellissimo rapporto esistente tra la Sulamita e il suo innamorato, mi sembra doveroso dire due parole a chi desideri una simile relazione e non può averla. Prima di tutto, perché nel constatare come è e come dovrebbe essere il matrimonio, si sente in colpa della sua non riuscita, poi, perché sente amarezza e angoscia per il fatto di non essere stato capace di godere delle gioie matrimoniali. Paragonandoi proprio ad altri matrimoni, dove tra gli sposi vi è un continuo cinguettio, si sente fallita. Ho fallito. E questo lascia del continuo un dolore meno ferita, insanabile. Per prima cosa, occorre riaffermare una verità. Dio non ha dato a tutti gli uomini la stessa vita da vivere. Ci è chi è povero e chi è ricco come ci è chi ha un'intelligenza sopra la media e chi no. Così è del matrimonio. Adamo ha avuto una moglie, Abramo 3, il re Davide molte e Salomone 1000. Sara, Anna e Elisabetta erano sterili, mentre altre rimanevano gravide al solo polline portato dal vento. Abigail aveva per marito uno stolto, altre, uomini intelligenti. Anania e Saffira erano di pari consentimento nel male, mentre Aquila e Priscilla lo erano nel bene. Se non tutte le donne e gli uomini sono uguali, non tutti i matrimoni possono essere identici. Per forza di cose, se ci sono uomini e donne buoni e cattivi, amabili o meno, ci sono anche dei matrimoni più difficili di altri. Questa non è una novità, solo che quando tocca a noi un uomo burbero e insensibile o una moglie irritante e vanitosa, ci chiediamo se non sia per colpa nostra che l'apporto matrimoniale non funziona. A volte è possibile avere una certa responsabilità, ma molte volte non ci è niente da fare. Dice all'inizio del suo libro l'Ecclesiaste: ciò che è storto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. 1 1/4, ripetendo verso la fine del libro: considera l'opera di Dio, chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto storto? 7 e 13, se accettiamo il messaggio di un Dio di amore, di un Dio giusto e santo, dobbiamo anche accettare che certe sue vie storte, cioè corrotte dal peccato, non si possono raddrizzare. A nulla serve la preghiera, anche se può molto. A nulla serve provare un profondo dispiacere. Ciò che è storto rimane tale. È vero che Dio può compiere l'impossibile e, proprio per questo, quando nulla cambia, significa che la volontà di Dio è che tu viva nel tuo contesto matrimoniale, con tutte le problematiche inerenti. Il compito di un cristiano non è avere un matrimonio felice, ma l'essere soddisfatto di avere il coniuge che Dio gli ha dato. Si onora Dio se non tanto nell'avere la pace e la gioia di Cristo in un matrimonio difficile, quanto nell'offrire ogni giorno il proprio dolore come sacrificio vivente, perché i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Salmo 51.17. E, per questo, egli prende piacere nei sacrifici di giustizia. Salmo 51.19, cioè quella sofferenza proveniente da un cammino retto. Se Dio ti chiama a questo compito, chi sei tu da volerlo rifiutare? Puoi farlo, ma non potrai dare gloria a Dio in nessun altro modo. L'amato della Sulamita ricorda un episodio molto importante. 8.5. Ti ho svegliata sotto il melo, dove tua madre ti ha partorito, dove quella che ti ha partorito ti ha dato alla luce. Difficile comprendere questa testimonianza. Molto probabilmente si tratta del luogo nel quale lo sposo ha conquistato l'amore della Sulamita, o, come diremmo noi, quando è scoccata la freccia di Cupido. Oppure, quando ha suscitato in lei il desiderio di amarlo. L'amore, che forza misteriosa! Se ne parla ad ogni respiro, lo si desidera tra un respiro e l'altro. Forse perché è tanto incomprensibile e indecifrabile. Lo cerchiamo in ogni poesia, in ogni canto, in ogni gesto. Amare, come si è detto, è cercare la felicità dell'altro, ma anche in questo assioma, via del mistero. Come posso fare felice colui o colei del quale mi sono innamorato e al quale ho promesso amore finché saremo assieme? Con il soddisfare sempre i suoi desideri, com'è possibile se teniamo presente che abbiamo sì delle buone disposizioni, ma anche delle inclinazioni sbagliate. Amare vuol dire accondiscendere, ma se in tutti vi sono anche delle inclinazioni sbagliate, è necessario e doveroso dire anche di no. Se un marito chiede prestazioni sessuali alla moglie, è giusto che la moglie non si rifiuti. Ma se queste sono il risultato di morbose ossessioni, con amore e per amore, la moglie dovrà negarsi. Come un marito deve dire di no quando la moglie passa certi limiti. Difficili identificarli. Ma la testimonianza di una mia esperienza può servire. E la mia caratteristica è quella di servire, di essere disponibile, Poiché abitiamo al secondo piano, quasi ogni giorno mia moglie mi ricordava di portare giù il pattume, cosa che facevo con gioia. Un giorno mi resi conto che nonostante lei scendesse svariate volte per fare la spesa e per altre ragioni, non portava mai giù il pattume. Dopo una breve conversazione, decisi di non farlo più. Ovviamente a tale rifiuto ci è stata una reazione abbastanza animosa, ma in seguito tutto è diventato normale. Lei porta giù il pattume. Com è difficile amare. È difficile e impegnativo, perché non si tratta di sentimentalismo, ma di un giusto comportamento, che può esistere solo quando si ha pure un giusto discernimento della vita. Con una giusta valutazione della vita, per amore si dice sì, ma anche si deve dire no. Amare il nostro coniuge vuol dire anche non permettergli di esprimere il proprio egoismo. Siamo chiamati in causa anche in merito ai lati inopportuni del nostro coniuge. Prima li comprendiamo, prima possiamo aiutarlo, perché dopo 20, 30, 40 anni di matrimonio si creano situazioni storte impossibili da raddrizzare, a meno che ovviamente non intervenga un evidente miracolo di Dio. Ho impiegato molto tempo a comprendere ciò che disse un consulente matrimoniale, cioè che dovrebbero sposarsi solo quelli che non hanno bisogno del matrimonio. In effetti, contraendo tale vincolo, ci si incammina in uno dei rapporti più difficili da gestire per aiutare il prossimo e, se non si riesce a soccorrerlo, perché noi stessi siamo bramosi di essere aiutati, lui affonderà, con lui, la barca del nostro matrimonio. Le amiche della sposa si pongono una domanda. 8. Noi abbiamo una piccola sorella, che non ha ancora mammelle. Che faremo della nostra sorella quando si tratterà di lei? 8. Noveat, se è un muro costruiremo su di lei una torre d'argento, se è un uscio la chiuderemo con una tavola di cedro. Le amiche della sposa affrontano un problema, alla luce di quanto è stato detto. Hanno una sorella ancora piccola e si chiedono come dovranno comportarsi quando sarà grande. Se essa saprà conservarsi pura, cioè se è come un muro, inaccessibile, le daranno altri consigli e avvertimenti utili, torretta d'argento, per continuare a comportarsi così. Se invece sarà una ragazza facile, cioè un uscio accessibile a tutti, allora cercheranno di fermarla, impedendole in tale comportamento. Anche in questo caso, l'amore porta i suoi frutti, incoraggia il bene, ma ostacola il male. Purtroppo, i giovani, meno, e non solo loro meno, vedono nel rifiuto a esprimere la propria sessualità quando vogliono e come vogliono, una negazione alla felicità, mentre proprio la rinuncia a vivere la propria sessualità disordinatamente, a essere fonte di gioia per se stessi e gli altri. Chi sarebbe contento se ognuno prendesse quello che vuole, quando vuole? Non esisterebbe la proprietà individuale, ma solo il più totale disordine morale e sociale. Perché nell'ambito sessuale deve essere diverso? I più vorrebbero la libertà di andare con tutte le donne, ma ci piacerebbe che tutti potessero fare altrettanto con nostra moglie. La sulamite interviene a sua volta. 8 e 10. Io sono un muro e le mie mammelle sono come torri. Io sono stata ai suoi occhi come chi ha trovato pace. La sposa prende l'occasione da questa decisione delle figlie di Gerusalemme per testimoniare di essere un muro, cioè aver sempre mantenuto un'etica corretta, ferma, di aver sbarrato il passo a chi voleva toccarla. Inoltre, i suoi seni sono sempre stati inespugnabili come delle torri, non alla portata di tutti. Questo è un insegnamento per tante ragazze, le quali, benché non si concedono sessualmente, lasciano che i ragazzi tocchino il loro corpo nelle parti più intime. Il contrasto, quindi, è evidente. Mentre la sposa è un muro, un giardino privato, vi sono ragazze paragonabili a dei giardini pubblici, assorgenti lungo la strada, dalle quali ognuno beve al minimo sentore di sete. Inoltre, la sposa afferma di essere stata per lo sposo una persona sentimentalmente tranquilla, per cui lo sposo l'ha preferita alle altre, trovando pace, cioè favore e armonia. Oppure, come rendono altre traduzioni, È la stessa sulla mita a aver trovato pace. A mio avviso, considerando la vita matrimoniale con il suo comportamento, la Sulamita ha prodotto e produce una profonda simbiosi nell'ambito coniugale. Le ultime parole dell'amato. 8 e 11 Salomone aveva una vigna Baal Amon, e gli affidò la vigna dei guardiani, ognuno dei quali portava come frutto 1000 sicli d'argento. 8 e 12 La mia vigna, che è mia, la guardo da me. Tu, Salomone, tieni per te i tuoi 1000 sicli, e ne abbiano 200 quelli che guardano il frutto della tua. Sembra che lo sposo dica a Salomone: la mia vigna, cioè la sposa, io non invidio il tuo harem, né il tuo denaro, né la mancia che puoi dare a chi guarda le tue donne. Parla un marito appagato. È vero che con il passare del tempo l'erba del vicino sembra sempre più verde, ma la sposa con la quale vivo e ho vissuto giorni felici e altri difficili è partecipe con me del cammino dell'amore, quell'amore liberato da ogni fine religioso e utilitario. Un consulente matrimoniale disse che quando in un matrimonio non vi sono contrasti, significa che uno ha sopraffatto l'altro. L'amore soffre ogni cosa. Come non esiste nero senza bianco, come non esiste altezza senza profondità, così non esiste il vero amore senza contrarietà. Uniscono la gioia e l'armonia, ma non di meno congiunge anche il contrasto, i giorni di maggior opposizione. Perché? Un conflitto risolto, un rancore perdonato, una quiete dopo la tempesta, rende più compatto l'amore. E il ferro rovente è essere buttato inesorabilmente nel contrasto dell'acqua fredda, che lo rende acciaio. Il diamante, per essere tale, non deve essere puro. Quanto si soffre nel momento della discordia, tanto si gode nel momento della riconciliazione anelata con preghiera. Come nella sessualità. Tanto è il desiderio di appagamento, tanto più è il momento del rilassamento. Molto probabilmente, nel mistero del sesso, in questa pulsione spesso a noi oscura, ci è molto di più di quanto si pensa. Se non se ne fa un Dio, ha molto da insegnarci in merito al vero amore per il prossimo. Le ultime parole con le quali la Sulamita esprime la propria incontenibile brama. 8 e 13. Tu che abiti nei giardini, i compagni stanno attenti alla tua voce. Fammela udire. 8 e 14. Fuggi, amico mio, come una gazzella o un cerbiatto, sui monti degli aromi. Il poema termina con la sposa, che invita il proprio coniuge a andarle incontro e ghermire ogni possibile delizia matrimoniale. Un appello che non terminerà mai perché il matrimonio è cosparso, sì, di tante difficoltà causate dal peccato, ma anche di tanti piaceri e soddisfazioni, che devono essere carpiti con la veemenza dell'amore. Se noi crediamo che ogni cosa terrena è il riflesso del celeste, allora più conosciamo il Dio Trino, più nella relazione matrimoniale scopriamo il carattere di Dio. E viceversa, più viviamo pienamente un matrimonio, più comprendiamo le relazioni trinitarie. Forse è per questo che nella Bibbia ci è anche il libro Cantico dei Cantici, beato colui che sa attingere da esso. Maggio 2012. Ellero.